Buonasera a tutti, buonasera a tutti, grazie. Grazie, vedo gente che parla, beh, ma è un comico, quindi fa lo stesso. Vi do subito una bella notizia, non c'è Valerio Erò. Giubilo, giubilo. Staremo molto più tranquilli stasera. Come va, come state? Chi è che ha detto male? Come mai, me lo può dire? No, quindi sta bene anche lei nella vita. Beh, l'importante è quello. La salute non c'è, come vedo. Però, va bene, va bene. Stasera però non sarò da solo, perché comunque non mi hanno lasciato solo. Valerio mi ha appioppato una persona che si è già esibita qua. Quindi non so come sarà vestito. Gli avevo chiesto di rimanere vestito come era prima, perché mi piaceva e avevo una roba da dire. Però magari si è cambiato. Ah, ma sei qua. Mettitela, mettitela, mettitela. Ragazzi, questa ve lo ricordate Cassano quando ha fatto la presentazione al Real Madrid? Non so se qualcuno se lo ricorda, ecco, il look è il medesimo. Stasera condividerò il palco con Francesco Maggioni. Prego Francesco, fategli sentire tutto il suo calore. Aspetta che ho spaccato il palco. Buonasera, grazie, grazie. Vuoi dire qualcosa? Non so, mi tengo addosso il giubbotto così se vi rompo i coglioni me ne vado direttamente fuori dalle balle. Almeno vedo volti nuovi, tra l'altro, non c'è nessun abitué stasera. No, io ne vedo già due o tre di abitué. Non conosco un cazzo di nessuno. Comunque, signori, un applauso ai signori che è vero, sono sempre... Ma lui fa parte dell'arredamento in realtà. Sì, è vero. È sempre lì, qualsiasi cosa. Lui si ricorda di tutto. Il signore si sveglia domani mattina, beve un caffè, si riaddormenta. Passa così le giornate. Loro infatti, di giovedì, di martedì vengono sempre. Valerio mi ha appioppato questo onere di sostituirlo. Quindi vabbè, per farvi sentire a casa magari inizierò a parlare come lui. Devo essere un po' più brutto, puzzare un po' di più. Ma adesso mi impegnerò, terrò addosso se veramente la giacchetta, il montone me, tipo e vi assicuro secondi. Che poi esatto. Puzzi più di Valerio. Come? Devo portare il bicchiere, è vero. Ed essere più peloso. Va bene, ok. Va bene, abbiamo parlato di peli, abbiamo parlato di Valerio. Di peli, un argomento abbiamo che fa sempre ridere, non in questo caso. Comunque pare, stasera no. C'è Madonna, una bellissima tristezza. Scaletta, davvero sono molto contento, perché abbiamo un sacco di gente molto brava, due o tre disgraziati veri che si sono già esibiti qua, ma gente che fa delle robe particolari, che quindi anche questa sera sarà da tutto da vedere. Ma chiedo, chi è la prima volta che viene qua? 1, 2, 3, 4. Vedi che 5. Non avevo. Beh, dai, abbiamo degli abitué. Nonostante tutto, abbiamo degli abitué. Praticamente tu hai detto: no, riconosco il signore, ma solo lui. Vabbè, il signore lo riconosco perché c'è sempre una parte di me che tutte le volte pensa: perché questi due signori per bene, distinti, vengono ogni due giovedì a vedere noi? Ma sa che questo me l'ero immaginato al secondo uno. Ma in realtà anch'io me lo ricordo, perché tutte le volte arrivo e dico: ah, c'è già il merda sulla mia poltrona, eccolo qua. Invece d'altronde il giovedì cosa c'è in televisione? Piazza pulita? C'è niente, c'erano i mondiali, è appena finita USA-Iran, qualcuno ha risultati in aggiornamento? 1-0 Stati Uniti. Ah, intera politica questa partita di questa stasera. Questa è una partita molto tesa, una partita molto forte. Va bene, ma noi signori, stasera che non c'è Valerio, non dobbiamo fare le due di notte. Come possiamo no? Andare a casa tutti tranquilli con la metro, quindi assolutamente sarà una no. Serata piacevole. Guarda come sono tranquillo, sono proprio leggero nonostante il tuo giacchetto. Ma infatti tu mi stai obbligando anche a tenerlo, quindi vabbè. Ma perché ti giuro, quando ho visto questo qua è Cassano davvero, io sono abbastanza vecchio da ricordarmi la presentazione. Io non ho idea di chi cazzo sia Cassano. Ma tu non sai chi è Antonio benissimo. Cassano? No. Ma perché non seguo... Qui abbiamo due liguri. Non seguo il basket, quindi... Guarda. Chi sono i due liguri? Prima e ultima volta che presenti. Te lo dico subito. Tu sai chi c'è per primo? Sì. Vuoi chiamarlo? La chiamiamo. La chiamiamo. Allora. La chiamiamo. Io poggio già il microfono. Io non ho idea di che cazzo di faccia abbia, ma vi presento Daniela Carta. Oh, oh. Ah, eccoli qua. Oh, Madonna. Ciao. Io ti stavo cercando di là. Sì, va bene. Questa è la faccia. Ciao, ciao Francesco, scusami. Ciao, ciao, perfetto. Ti lascio il palco. Grazie. Ciao, vai. Ciao a tutti, buonasera, ciao. Sono felicissima di essere qua. Fatevi sentire, dai! Su! Allora, per me è la prima volta qui. E quando per la prima volta vado in un posto nuovo, io non so mai come vestirmi. È un disastro stasera, perché un vestito mi faceva troppo grassa, l'altro mi faceva troppo vecchia, l'altro mi faceva troppo seria, Cioè, ho deciso, i miei vestiti non vanno bene, sono troppo sinceri. E così ho puntato sul premaman. Se non puoi convincerli, confondili. E a proposito di confusione, volevo chiedere qua in sala quanti al momento hanno una relazione stabile in corso. Alzate la mano, dai che gli fate il tricipite. Tutti venuti con l'amante? Allora gli altri guardino, quelli che vanno sulla mano, stasera si scopa. Sulla mano, dai che fa il tricipite. Allora, di questi con la relazione stabile, la lasciano su solo quelli che non convivono. Quelli che non convivono, pochissimi, due. Te la fanno mai la domanda, è tanto che state assieme quando andate a convivere? Per fortuna no, ecco, a me sì. Per darvi un'idea dell'entusiasmo, nel dubbio mi sono vestita da vedova. Ecco, io non capisco, perché quando tu hai una relazione stabile, la gente pensa sempre che le relazioni stabili abbiano a che fare con la sede. Troppo smart working. Io per esempio ho una relazione stabile da tanto tempo e ognuno ha casa sua. Diciamo che noi abbiamo la sede legale e quella operativa. E per policy aziendale non siamo mai troppo nella stessa filiale. Ma quando lo dico, vengo sempre vista con sospetto. Pensate che da poco ho ristrutturato casa del mio compagno. Sì, ristrutturato. Perché oltre che comica, sono anche architetta. E a Milano è una professione altrettanto instabile. E quindi ho capito che mi piacciono solamente le professioni con la partita IVA, no profit, e che vendono illusioni. E non sono neanche su OnlyFans. E quando in cantiere, dicevo al capocantiere che si chiamava Ciro, questa cosa a casa del mio compagno, lo mandavo in crisi. E lui mi diceva, architè, che è l'antenato di architetta asterisco. Guardi, ho capito, il suo compagno è proprietario, ma è pur sempre casa sua. No. Casa mia è casa mia, casa sua è casa sua. Architè, ho capito, allora un investimento, l'affittate, no. Architè, ho capito, allora tenete un carattere di merda. Che è vero, ma non è il motivo per cui non conviviamo. Almeno così mi dice. Io non sono in realtà contraria alla convivenza. Secondo me ognuno dovrebbe fare quello che vuole. Solo che mi sono resa conto che quando scegli non lo fai tra tutto quello che esiste, ma solo tra quello che ti hanno fatto credere essere normale. E così luogo comune, relazione uguale convivenza. Ci sono finita anch'io. Solo che quando ci sei dentro al luogo comune, tu non lo sai che è comune. A te sembra tuo. Cazzo, io me lo sono anche arredato. E così, due cuori, un monolocale, condividere sempre tutto, uscire sempre in coppia, le liti, gli scazzi, i compromessi, la psicoterapia, le corna. E una mattina mi sono svegliata e ho avuto un'idea geniale. Ognuno a casa sua, ma aiutiamoli a casa loro. Ed era talmente geniale che ho scoperto che era già brevettata. All'estero hanno un nome, si chiamano LAT, Living Apart Together, e sapete chi porterà i LAT in Italia? Gli architetti. Così ristrutturiamo due case al posto di una e io smetto di essere no profit. Ho trovato anche il nome, VADI, vivere a distanza insieme, vadi a casa sua. E sapete quante case ho ristrutturato? Solo casa del mio compagno. E così sono rimasta comica di notte, architetta di giorno, praticamente precaria H24. Questo perché culturalmente non è accettabile. Culturalmente ci possono essere relazioni a distanza, ci possono essere persone che condividono lo spazio anche se sono sconosciute, addirittura separati che convivono. Ma non ci possono essere due stronzi che si amano e ognuno sta a casa sua, nel suo lettone, a quattro di bastoni. Che ne so, uno col pigiama di fustagno, che mette lo smalto e guarda Netflix, e l'altro torso nudo, con le briciole di Pringle sul petto, che gioca alla PlayStation. E non è detto che quella dello smalto sia io? Maledette Pringles. E la cosa che meno sopporto sono le domande. Ma se non convivete bisogna avere più fiducia. È più facile tradire. Ora, spiegatemi come funziona. Io devo convivere con uno, sopportarlo tutto il tempo, per evitare che mi tradisca con un'altra che lui adora proprio perché non ci vive assieme? È un piano geniale. Se non convivete farete meno sesso. È perché noto che quelli che convivono fanno molto più sesso. Quelli sono secondo me i fan del sesso a chilometro zero, che non hanno capito che poi zero non sta per la distanza ma per la frequenza. O i miei preferiti, quelli che mi dicono: e come fai la sera a sfogarti? Con chi ti sfoghi? A chi dai la colpa? E lì mi avevano quasi tentato. Poi ho detto: ma figurati se due stanno insieme per darsi la colpa. Ma no, dovete proprio entrare nel mood. È tutto diverso, tu la sera ti prepari, lo inviti, organizza una bella cenetta, lui viene, si mangia insieme, si brinda col vino e quando proprio la tensione sale ci si mette sul divano e quando sei pronta a godere gliela dai, la colpa. Io ve l'avevo detto che era una relazione stabile. I miei preferiti sono quelli che mi dicono: ma come fai a riempire il vuoto? Ma quale vuoto? Ti paio una che ha bisogno di riempire il vuoto? Ma se tu proprio lo vuoi riempire, ma mettici una pianta. Parola di architetta, grazie. Un grande applauso, il coraggio. Daniela Carta. Di aver voluto aprire perché gliel'ho detto io. Un grande coraggio. Ah, io infatti stavo giusto pensando, rompere il ghiaccio, aprire non è facile, infatti ho detto probabilmente stai sul cazzo a Valerio perché lui è il figlio di puttana che ha fatto la scaletta, quindi però no, qui se l'è cavato. Come regola tendiamo sempre a far aprire uno di quelli nuovi che viene qua, quindi non c'era solo lei come nuova, ma abbiamo detto facciamo aprire lei. Tu ti sei fatto 3 aperture se non sbaglio. Quindi vi sto sul cazzo perché in una maniera incredibile, non lo so. Perché non solo una come tutte? No, tutte, perché sono sempre nuovo. Sempre colpa però, se l'è cavata, se l'è cavata, giacchetto. Anche se è una femmina se l'è cavata. Questa è un'imitazione di Valerio Ero. No, sì, già non viene bene quando la fa, non viene bene quando la fa lui. Dai, stavo scherzando infatti. Stasera che può essere una sera tranquilla, ti prego. Allora niente, comportati in maniera sto buono. Educata. C'ho ancora addosso i pantaloni, quindi va benissimo. Sì, esatto, cioè non vorrei arrivare ai livelli di Valerio, quindi stiamo tranquilli. Chi è il secondo, lo sai? Yes! No, aspetta, ti ho chiesto se sai, non di dirlo. Chi ok, è? Lo so. Non lo vedevo da 47 anni, ma è ancora vivo. Per chi? Per me questa cosa. E lotta insieme a noi e con estremo piacere che chiamo sul palco Ciccio Rigoli. Vai! Intanto volevo ringraziare lei che si è esibita prima perché io sono fidanzato con un'architetta da 7 anni e viviamo ognuno a casa propria. E sono anche quello con lo smalto della coppia, peraltro. No, buonasera a tutti, io sono Ciccio Rigoli, io non sono esattamente uno stand-up comedian, non mi esibisco spesso come stand-up comedian e francamente non amo moltissimo gli stilemi della stand-up comedy, cioè il solito trovare degli argomenti in qualche modo osceni, in qualche modo eccessivi soltanto per scandalizzare il pubblico o per épater la bourgeoisie, come diciamo noi che alle medie abbiamo studiato francese, perché negli anni 90 in Calabria alle medie si studiava francese, che era considerata la lingua del futuro. C'era solo una sezione che studiava inglese ed era considerata sperimentale. Non aveva futuro questa lingua inglese. Dicevo, non sono qui per scandalizzarvi, per scandalizzare la borghesia, e infatti come tema ho scelto il sesso orale. Lo so, starete pensando il solito trucco da 4 soldi dei comici, non vi parlo di questo, invece vi parlo di questo. C'è una differenza tra me e i comici, e non è quella che io non faccia ridere e loro sì. La differenza è che io andrò ad analizzare il sesso orale da una prospettiva estremamente semantica, filosofica, socio-economica. praticamente non è un pezzo di stand up, è un editoriale dell'inserto culturale del Sole 24 Ore della domenica mattina, che io speravo il Sole 24 Ore della domenica mattina mi pubblicasse se soltanto ritirassero la causa che mi hanno fatto perché sono entrato nudo correndo in sala riunioni da loro. Ma non siamo qua per parlare dei miei divertentissimi precedenti penali, ma siamo appunto per parlare del sesso orale. Ragionando su questa attività, ho pensato che il problema, se viene molto più praticato alle persone dotate di pene piuttosto che alle persone dotate di vulva, notate l'inclusività di questa frase che mi è valsa il premio Raffaella Carrà della comunità LGBTQ, più non so più quante lettere abbiano, è semplicemente una questione di parole, perché è con le parole che noi capiamo il mondo. Qual è la parola che viene utilizzata per il sesso orale praticato alle persone dotate di pene? C'è uno che lo sa e basta? Cioè, addirittura, sì, ma non faccia l'esperta lei da lì. Pompino, una parola gioiosa, una parola festosa, un vezzeggiativo, una parola che ricorda la pompa della bicicletta in piccolo e quindi ci fa tornare all'infanzia, a quando andavamo in bici così col vento in faccia. E notate come se aggiungiamo la U tra ven e to, la frase vento in faccia cambia completamente. E ricorda una delle più famose skin care femminili. Tu fai troppo l'esperta però, zia. Infatti hai una pelle lucidissima. Dicevo, pompino, una parola molto allegra, molto gioiosa, molto festiva, che ci fa ricordare il carnevale di Rio, non lo so, ballerine, festa. È una cosa meravigliosa. Se invece la prendiamo dal lato delle persone dotate di vulva, qual è il termine con cui viene indicato il sesso orale? Cunilingus. Che sembra un presidio medico-chirurgico. Cioè, è una roba latina, e le robe latine allontanano le persone. Le robe latine, come il cunnilingus, ammazzano la libido. E notate che ho utilizzato due parole in latino nella stessa frase, ma lo faccio solo per far vedere che ho fatto il classico. Perché mia mamma ci tiene. Si vergogna di tutto il resto, ma che ho fatto il classico ci tiene. Ma dicevo, non è un'analisi soltanto semantica, ma è un'analisi anche socio-economica la mia. Quindi andiamo a prendere una relazione tra due persone analizzandola su due assi cartesiani, l'asse della X che indica il tempo e l'asse della Y che indica l'eccitazione. Ci siamo? Algebra 1 l'avete fatta? Io no, so soltanto X e Y, non so mai qual è la scissa e qual è l'ordinata, quindi diciamo quella così e quella così. Prendiamo una relazione tra due persone, ok? Una dotata di pene, una dotata di vulva, due dotate di pene, due dotate di vulva, non mi interessa. Ma andiamo a prendere il punto zero della curva gaussiana, che, convenzionalmente, indicheremo con il momento in cui compare la frase «It's a match». «It's a match» è la frase che compare su Tinder quando ci si trova, quando entrambe le persone si piacciono. Per chi non conoscesse Tinder, Tinder è quell'app di incontri in cui gli uomini hanno gli occhiali da sole, gli addominali e la moto e le femmine limonano i cani scrivendo sotto frasi del Piccolo Principe. A qualcuno è successo, vero? O scrivendo le frasi di merda tipo per me l'insolito, grazie. O, no, quelle che preferisco sono quelle che scrivono non iniziate una se facciamo match, non iniziate la conversazione con ciao, che è banale. Una volta ho fatto match con una così e le ho scritto: sai che in italiano non c'è nessuna parola che fa rima con fegato? Tolto il match subito. Comunque, ipotizziamo questa partenza dal punto zero. Si prende, si chatta, la gaussiana comincia a salire e arriva al punto in cui ci si incontra per un aperitivo in un sopravvalutato e costosissimo locale di Nolo. Avete presente Nolo? Quel posto in cui è rimasto tutto uguale a prima, ma hanno cambiato il nome, il 150% in più d'affitto. Sapete che stanno facendo la stessa cosa a Corvetto, sì? Sapete come si chiama Corvetto adesso? Sapete? Sopra. Non sto dicendo cagate, South of Prada. Io abito a ovest di Via Farini, ho proposto di chiamarlo Far West, a sto punto. Madre, come cazzo, Dicevo, Ipotizziamo quindi la gaussiana, Tinder, si arriva all'aperitivo, i due si piacciono, arrivano a casa, arriva un momento in cui ci si trova alquanto nudi, quantomeno mancano delle parti dell'abbigliamento. Poniamo che una delle due persone dica a quella dotata di pene o a una delle due dotate di pene, madonna, il linguaggio inclusivo è abbastanza incasinato, gli dica ti faccio un pompino. Nessuna persona dotata di senso e di pene risponderebbe no. Ma soprattutto in questo momento la curva gaussiana si solleva per raggiungere l'infinito. Noi socio-economisti tecnicamente la chiamiamo raggiunge l'asintoto, ovvero arriva quasi all'infinito, e in quell'infinito ci sono il Carnevale di Rio, le ballerine brasiliane e il vento in faccia. Qualcuno l'ha raggiunto. Trasferiamo invece la situazione al momento in cui la persona dotata di vulva deve ricevere questo sesso orale e la persona, nel momento in cui la gaussiana sale, le dice ti faccio un cunnilingus. La gaussiana crolla tipo i bitcoin nell'aprile del 2021, perde 74 punti base e abbiamo il venerdì nero della secchezza vaginale. Avete capito quindi che oltre ad essere un problema socio-economico, è un problema proprio di semantica, di parole, sbagliamo le parole. E allora, essendo uno studioso della lingua, ho pensato a dei termini che potete utilizzare, dei vezzeggiativi da utilizzare, che spero entrino nel Devoto Oli a breve. Sono tre. La prima parola è sfarfallio. Ti faccio uno sfarfallio. Romantico, delicato, colorato, e soprattutto consentirebbe di capire agli uomini che bisogna fare piano. Cari amici uomini, non è che dovete buttarvi come degli assatanati. Che cazzo ride tu? Cosa sa? Cosa ride lui? Non ho capito se ride perché tipo lui la sa oppure madonna ho imparato una cosa nuova. Sti 5 euro d'ingresso li ho spesi bene. La seconda parola è gelatino. Beh, che bello, vedi? Perché gelatino? Perché il movimento della lingua nel sesso orale praticato a una persona dotata di vulva deve essere come quello che si fa quando si lecca un gelato, almeno secondo quello che ho letto su Men's Health, che è più o meno il 90% della mia educazione sessuale. Attenzione, c'è una controindicazione su gelatino, perché gli uomini so che non capiscono benissimo. Anche se capita che ci siano delle donne che lì abbiano la coppetta, non arrivate col cucchiaino. Lo sconsiglio. Poi può piacere e non piacere. L'ultimo, che è il mio preferito, è sempre un vezzeggiativo, un diminutivo, ed è linguino. Perché ricorda in qualche modo il movimento. Lo so, ha una controindicazione. Assomiglia la parola linguino a un tipo di pasta che viene utilizzato solitamente per fare la pasta allo scoglio. Ma io credo che questo sia un vantaggio, perché una volta che voi avrete fatto un linguino, come dei novelli Antonino Cannavacciuolo della figa, potrete dire si sente tutto il sapore del mare. Grazie. Un grande applauso a Ciccio Rigoli e al sapore del mare. Viva il sapore del mare. Ti piace il sapore del mare? Molto, mi piace molto. Mancano 4 minuti. Giusto per ritornare su in tema Cannavacciuolo. Infatti ho pensato, Valerio, poi ho capito che era Cannavacciuolo. Era incredibile. Tra l'altro mi ha stunnato incredibilmente. Io sono ancora qua a riflettere su una parola che faccia rima con fegato. Vaffanculo. Vedi, ti ha rovinato la serata. Come va? Vi state divertendo? Siamo solo al secondo. Siamo lunghi, ma non, tantini, ma meno delle altre sere. Io lentamente perdo un indumento tutte le volte che salgo, adesso anche gli occhiali. Bene, quando ti esibirai, se mai ti esibirai sarai nudo. No, esatto. Sarai nudo. Come va? Gente che abbandona. Lei dove va, signora? Sta andando a cercare una parola che faccia rima con fegato, cazzo. Boni, sai che non mi ricordo chi c'è? Sì, me lo ricordo. Lo so io. Lo sei tu? Lo so io. Bene, allora, signori, lui... siamo spediti. Siamo spediti. Allora, lui è identico a Dahmer. Avete visto la serie Netflix Dahmer? Perfetto, ok. Vi ricorderà tantissimo lui esteticamente, come lui, una cosa che lo accomuna è essere un figlio di Troia. Quindi lo porti, ragazzi, tu, lo porta lui. L'ho portato io a casa. In realtà c'è sempre. No, cioè, mi accompagna lui in realtà. Lo a casa, porta lui. Quindi va, se benissimo. Se vi piace, se non vi piace, lo porto lui. Cioè, esatto. Se vi tengo piace, sempre a rimarcare la differenza. Se vi tra piace, chi porto fate io. I complimenti a me. Se non vi piace, invece, prendetevela con lui. Tanto, appunto, ricorda Damer. Quindi è anche facile dargliela. Scusa, prima di fare il nome, devo solo fare un annuncio, che sennò mi dimentico. Allora, noi questa sera la facciamo pagare, come tutte le altre sere, 5 euro. Problema è che prima di noi qua c'è stato un altro tipo di evento. D'Argilla, sì, scusami. E ci sono 3-4 imbucati che sono rimasti dentro. Ora, io non vi chiedo di costituirvi, non ve lo chiedo. Ma ci sono delle buste sui tavoli. Con discrezione, vi mettete una mano sul cuore. Non ci avete 5 euro, 2 euro li avete. Lo mettete... Nessuno sa niente, abbiamo fatto tutti una bella figura. E comunque ve ne andate poi. Pensavo dicesse anche quelli che hanno pagato. Sei pronto per chiamare il mostro va di bene, Milwaukee? Mostra... No, di dov'era, giusto? Di Düsseldorf. Düsseldorf, no, Düsseldorf è un altro posto. Perfetto, ragazzi, fate un grande applauso ad Alessio Sartori. Ciao a tutti. Tutto bene? Fino adesso? Bene. Allora, come avete sentito, il mio socio mi ha chiamato Alessio, infatti sono Alessio, e soffro terribilmente d'ansia. Vado dritto al punto perché ero terribilmente ansioso di dirvela. Questa è la battuta più forte del pezzo, ragazzi, quindi o ridete adesso o non ridete più. Ok. Vabbè, comunque, soffro terribilmente d'ansia e io sono una persona che vuole andare a fondo ai problemi. Questo è un problema, ragazzi, veramente... che mi sta rendendo una persona veramente poco gradevole, quindi mi sono rivolto a uno specialista. Ho detto, voglio andare a fondo a questo problema, vado da uno psicologo. Vado da questo psicologo, mi siedo su quella cazzo di poltrona, mi siedo davanti a lui. Lui neanche mi saluta, mi guarda e io inizio a parlare. Guardi, dottore, la mia vita è una merda, fa schifo, anche le cose più banali non riesco a farle. Mi viene l'ansia per tutto, per qualsiasi cosa, e niente, 45 minuti così, una seduta sono 45 minuti, lo volevo ricordare a tutti, sono 45 minuti, sono 100 euro, alla fine della seduta lui non mi guarda neanche, mi dice ci rivediamo settimana prossima, morale della favola, 45 minuti, 100 euro, ancora un problema da risolvere e 100 euro in meno sul conto, quindi partiamo benissimo. Ritorno la settimana dopo, non mi fa neanche parlare e mi dice, caro Alessio, io mi sono, intanto qualcuno è morto lì dietro, ok, e vai, caro Alessio, caro Alessio, mi sono preso a cuore il tuo problema e sono andato a studiare libri, i libri più autorevoli di DSM-5, ho sentito alcuni miei colleghi non li sentivo da talmente tanto tempo che addirittura mi hanno detto che potresti avere la prostatite, non accorgendomi che nel frattempo sono diventati degli urologi. Quindi ho capito il tuo problema guardando un film con mia figlia, dopo che ho letto 200.000 libri, mia figlia di 6 anni, ci siamo visti Inside Out. Sapete che cos'è Inside Out? È un film della Pixar. Film della Pixar con questa bambina che ha tutte le emozioni dentro la testa, queste emozioni, gioia, disgusto, tristezza, rabbia, non mi ricordo quale cazzo era l'altra emozione, che premono tasti a caso, che lanciano palline, e questa bambina ovviamente si comporta in maniera diversa rispetto all'emozione che sta prevaricando in quel momento. Ecco, nella tua testa capita come in Inside Out. Mi dice, tu conosci Inside Out? No. Perfetto. Allora, ci vediamo settimana prossima, guardati Inside Out, così almeno sono 100 euro, 45 minuti, e così fanno totale 200 euro, problema non risolto, io mi devo vedere quel cazzo di Inside Out. Quindi mi alzo da quella cazzo di sedia, gli do i 200 euro, figlio di puttana, ritorno la settimana dopo che ho visto Inside Out. Bene Alessio, hai visto Inside Out? Sì, ecco, nella tua testa succede esattamente questo. Togli le emozioni, metti le ansie. Tu hai tutte le ansie del mondo, tutte insieme, che complottano contro di te. Tutte. Quindi immaginati un tavolo, tutte le ansie intorno, e ogni ansia ti mette ansia. Ansia del futuro, ansia da prestazione. E ragazzi... ci mettiamo dentro anche una delle ansie principali che ho, che è la cherofobia, che non è proprio un'ansia, è una paura. È la paura della felicità. io ho paura di essere felice. Bene, trovato il problema, dico, cazzo, c'ha ragione, c'ha veramente ragione, perché io effettivamente in tutte le mie, in tutte le situazioni della vita, tipo, che cazzo ne so, vado al supermercato, ah che bello, adesso vado al supermercato, mi compro una bella mozzarella, vado, ansia da prestazione, oddio, no, la mozzarella no, forse non mi piace la mozzarella, forse mi piace il Philadelphia però è un formaggio da gay, forse sono gay. Ecco, altra situazione, camera da letto, ragazza conosciuta su Tinder, ah, finalmente, forse riesco a chiavare, forse ce la faccio, vai, sono lì, pronto, ansia da prestazione, oddio, forse non riesco, forse non ce la faccio, lei, allora, tutto bene? No, forse mi piace il Philadelphia, oddio, ecco. Sì, facciamolo, vaffanculo, vai, fate sto applauso. Bene, ora ragazzi, avevo di fronte questa problematica. Sapevo che cosa succedeva nella mia testa, dovevo trovare una soluzione. Ritorno da quel gran figlio di un gran professionista del mio psicologo. Altri 100 euro, 45 minuti. Dottore, ok, abbiamo capito che nella mia testa ci sono solo ansie. Abbiamo capito che non riesco a superarle. Come faccio a superarle? Alessio, ma è normale. Scudi emotivi. Il tuo animale guida qual è? E io che cazzo ne so qual è il mio animale. Bene, scegliti un animale guida, ci vediamo settimana prossima. Vaffanculo, stronzo. Altri 100 euro settimana prossima. Intanto mi guardo tutti i documentari su National Geographic, YouTube, eccetera, eccetera. Alla fine, ragazzi, trovo finalmente il mio animale guida. Sapete che animale è? Il pangolino. Sapete che cos'è il pangolino? Il pangolino è un vigliacco. È brutto, puzza, fa schifo e scemo. Ci sono un sacco di cose in comune col pangolino. Io ho un sacco di cose in comune col pangolino. Però ha una mossa segreta. Veramente una cazzo di mossa segreta che mi aiuta in tutte le situazioni peggiori che posso affrontare. Che è questa. Si chiude su se stesso. Quindi, cammino per strada, arriva una ragazza, mi chiede l'accendino. Scusa, perdonami, hai un accendino? Io la guardo. Problema risolto. Vado da mia zia, Natale, tra poco è Natale, ragazzi, andrò da mia zia. Classica domanda del cazzo. La tua zia quando la fai felice? Quando mi presenti una ragazza brava? Guardo. Problema risolto. Zia, vai a fare in culo. Ecco, adesso siamo alla conclusione di questo pezzo. Io non sapevo esattamente come chiudere questo pezzo, quindi andate a far culo. Ciao ragazzi. Grazie per la botta. Grande. Di ottimismo. Cazzo, mi ammazzo quando vado a casa. Mi hai distrutto con le ansie che non avevo, mi sono venute le tue, pensa a te. Ma anche le tue mi sono venute, non solo le mie. Pensa se mi vengono le sue. Non è più finita. Bene, comunque un po' più di ottimismo, mi piace. Mi ero dimenticato che eri venuto l'altra volta, altrimenti non ti mettevo adesso. Ti mettevo dopo che avevamo il blocco dadaismo. Cazzo, perché non mi sono ricordato, t'ho messo adesso, se no c'è un blocco dopo che... Sì, ma adesso basta, che sennò si mette... È futurismo, proprio una roba... Che non né in cielo né in terra. Va bene, andiamo avanti. Scudi. L'abbiamo inserito perché si è presentato, ha garantito lui per lui. Quindi okay. L'abbiamo fatto esibire nonostante si fosse già esibito, ma io non me lo ricordavo. Quindi andiamo avanti con la scaletta così come fu concepita. Esatto, infatti. E la sai? No, so chi è. La sai, ok, sì. So sì. Chi è? È una gran io bella l'amico figa. Valerio. Abbiamo un po' timore. Cosa? Abbiamo paura. Puoi chiamarmi Valerio se vuoi. Abbiamo paura. Ci manca un passaggio. Cioè? Lo spiegherò più avanti. lo spiegherò più avanti. Abbiamo paura, forse qualcuno capirà. Signore e signori, è con grandissimo piacere che chiamiamo sul palco qui per la prima volta Elena Di Cioccio. Beh, meno male che avete già riso. Allora, l'altro giorno sono andata in un locale, c'era un gruppo che suonava, hanno cantato una canzone e mi si è sbloccato un ricordo, così. Gita delle medie degli anni Ottanta, quelle esperienze così mistiche, per cui non esistono foto e video, a parte qualche scatto così un po' sovraesposto con delle facce sformate a metà tra l'urlo di Munch e un selfie di Salvini, che è un po' in carne, c'ha la barba, se li fa dal basso, cazzo, sembra un castoro. Che dico, ma fateli dall'alto, no? Che ti sfina. Sono quelle esperienze che noi, un po' anziani, un po' boomer, raccontiamo ai nostri figli e ai nostri nipoti con il piglio del veterano che è sopravvissuto a un'altra epoca. Partimmo alle 7:30 dal piazzale della scuola media Fogazzaro in Milano. Eravamo 65 ragazzini adolescenti infogliati come dei trichechi, stipati su un autobus che batteva bandiera svizzera. Perché bandiera svizzera? Perché negli anni Ottanta affittare un autobus in Svizzera costava meno, ok? I nostri zainetti erano pieni di succhini tossici, come il Billy all'arancia, alla mela e al pompelmo. Ma chi è che ha pensato il gusto al pompelmo? Non lo so. I bambini statisticamente lo schifano il pompelmo. Insomma, in queste gite, se ti andava molto bene, finivi in fondo all'autobus a limonare, belli, stretti, in quell'atmosfera avvolgente, romantica, da tornello dello stadio, con il tuo compagno di classe che ti ruttava in faccia a destra e l'altro che si accendeva una scorreggia a sinistra. E tu, oddio, è bellissimo, non vedevo l'ora. Se ti andava malissimo, invece finivi davanti, nel posto a fianco alla tua insegnante di italiano, che faceva colazione con pane e burro e teste d'aglio. Per tutti gli altri, invece, semplice, cantare, fare le bombe carta, ma soprattutto cantare, tanto, quelle bellissime poetiche arie tutte italiane che rispondono al nome delle osterie. Conoscete le osterie? Facciamo una prova, ok? Osteria del Gallo d'Oro. Vado a casa, almeno il paraponzi ponzi po' lo dovete fare bene. Allora, Osteria del Gallo d'Oro. È uno stronzo chi fa il coro, grazie. E l'altra sera, a un certo punto, in questo locale, intonano l'osteria numero 20. La conoscete? Sì. Davvero? Proviamo. Osteria numero 20. Se la gnagna avesse i denti. E io rimango così e dico, che sono un po' come i bambini, no? Quando sento qualche cosa mi dimentico di tutto quello che c'è intorno, per cui è sparito il locale, è sparita la gente, sono spariti i musicisti. E io dicevo, sono rimasta soltanto io con questa gigantesca immagine della gnagna con i denti, no? Di questa cazzo di sorca assassina. La guardo e dico, che figata! Cioè, se la gnagna avesse i denti, cosa io potrei fare? Io mi sfonderei, cioè mangerei tutto quello che posso ingoiare, capito? Cioè, non mangerei solo sul piano naturale delle cose il tavolo con le mani, ma anche l'autostrada, cioè tutto quello che incontro. Pensa che figata, sono in giro, ho in mano un panino, mi cade, non lo butto via! C'ho la gnagna con i denti! E stum, tum, tum, tum, tum, tum. Cazzo, Elena, hai imparato a twerkare? No! Io sto masticando! Ah! Elettra Lamborghini! Non la guarderete mai più con la stessa faccia adesso. Poi ho pensato, se io la gnagna avessi i denti, io potrei finalmente fare la figa. Cioè, potrei uscire con qualcuno a cena per la prima volta e non mangiare un cazzo. Perché le ragazze lo sanno, dobbiamo sempre fare un po' la figura di essere quelle, no, che stanno a dieta, che sono carine, delle uccelline, no, che non mangiano niente, che suggono la rugiada, così, pensando che poi forse, suggeremo anche dell'altro, non lo so. Immaginati, lui ti porta in montagna per la prima cena. Elena, sì? Ma non li mangi i canederli? No? Io sono a posto col mio ovetto sodo, ti ringrazio. Va bene così. Ma quello non è il tuo Porsche Cayenne che stanno portando via col carro attrezzi? Quale? Quello lì? Non è il tuo. Scusa. Perché fa l'effetto canna fumaria, no? Cioè un pezzo unico. E poi, per esempio, cioè, se io avessi un piranha nelle mutande, quando la toccano male, perché comunque c'è qualcuno e qualcuna, insomma, che a qualcuna, silenzio, che te la tocca male, no? Che tu magari glielo spieghi anche, dici, guarda, è più, cioè, un po' più, avanza, lascia stare, faccio io. Però insistono, e non è il loro sport, capito? E te la smucinano, cazzo, come se avessero perso, che ne so, le chiavi della macchina, l'impasto della pizza, uguale. Tu dici, guarda, io te l'ho spiegato. Ma se la gnagna avesse i denti, via un dito, così, via, fum, subito, in un secondo, fum, polso. Perché c'è chi arriva fino lì, eh? Il resto è per esperti. Poi, alcune frasi figurative diventerebbero oggettive, no? Quando ti dicono, cioè, figa, me l'hai fatto a fette. Sì, sì, sì. È possibile, con la gnagna, con i denti, è possibile. E comunque, per concludere, quello che veramente ho pensato che mi sarebbe tanto piaciuto fare se la mia gnagna avesse i denti, sarebbe richiamare il mio ex. Sì, dai, quello stronzo che mi ha fatto soffrire. Me lo metterei qua davanti, no? Lo sdraierei, lo guarderei in faccia e gli direi, la vuoi fare una rimpatriata? Anch'io. Lo vuoi vedere come li mangio i canederli? Grazie. C'hai paura? No, non ho ma non ho paura io, adesso lo spiego, perché sennò sembra che sono Aspetta, io credo di parlare a nome di tutti i maschi presenti, che quando masticavi io mi sono arrapato. Bene. Te lo dico proprio con sincerità. Vabbè, ma... So, il masochismo è molto diffuso. Volete instaurare un... Comunque spiego, dopo, perché dopo. Prima parlavo di paura. Non volevo spoilerare, ma tra le tante cose Elena nella vita ha fatto tantissime cose e ha lavorato a un programma dove, non faccio nomi perché sono nostri competitor, ma famoso anche per l'intrattenimento ma anche per delle inchieste. Quindi quando Valerio mi dice Elena mi ha chiesto di venire all'open mic, io la prima risposta ho detto sta attento che stanno facendo un servizio su di te. È sicuro, adesso ti mandano dei messaggi, ti registrano e finalmente vieni sputtanato per tutte le cose brutte che hai fatto. Poi questa cosa, mi confermi che non succederà? Stiamo parlando con te, sì. Scusami, sei serio? No, eravamo... No, che pezzo, Ma tu sei, tu, Valerio si è spaventato, te lo giuro. Ha paura! Si sta cagando sotto, per quello che non è venuto stasera. Capito, altro che malato, questo qua ha dato forfè. Questo qua... No, sto scherzando, non è vero, qua non stiamo paura. Scherzando, esatto. Ragazzi, stiamo tutti scherzando. Non io però ho una domanda sul suo pezzo. Ma la piorrea? Gelo proprio. Io posso dirti che ormai sto qua. Torno perché a questo punto sto qua. Tutti i dottori? Dimmi. Piorrea, sì, chiesto. Quella dei denti, che vogliamo fa'? Dico, come lo risolvi sto problema? Beh, ma quello c'è già il ciclo, me ne accorgerei. Ah, vero, vero. Cazzo. Vai, dai, altre domande. Basta, vai fuori dal cazzo. Su, sei stata sul palco fin troppo. Vai a fare sto servizio. Chi c'è dopo? È una persona che ha tre nomi, non ha cognomi lui. Oh, comunque l'imbarazzo in cui mi avete messo, vogliamo parlarne? Portacci! Oh! Sai quelle situazioni che vuoi creare gelo e fai peggio? Però sei stata bravissima. Si vede che non c'è Valerio. Andava peggio comunque, posso garantirti che andava peggio. Comunque è andata bene. Adesso stiamo andando nel momento molto bello, stiamo andando nel centro di tutto. Abbiamo un po' di dadaismo, abbiamo un imitatore, barzellettiere, non è la prima volta che viene qua, avrà un repertorio nuovo stasera, facendo di sì con la testa, quindi con grande piacere che chiamo sul palco José Antonio Dante. Appunto, tre nomi. Fate sentire. Nessun cognome. Dante è il cognome. No, Dante è il cognome. Grazie. Cioè, a scuola immaginate le prese in giro che mi hanno detto che un cognome importante, però le battute non sono mancate e non mancheranno neanche per il resto della mia vita. Ce ne puoi fare una? Sul tuo cognome, una battuta che ti faceva. No, niente, figurati. Sul mio cognome, sinceramente, perché non ne conosco nessuno e fai una bruttissima figura, quindi... Cioè, io quelle che ti hanno detto, neanche una. No, non me ne ricordo neanche una. Cioè, dicevo, mi chiamo Dante, ma ho detto, quando fai la Divina Commedia? E poi un'altra volta mi son preso in giro da solo, visto che un mio amico aveva una Divina Commedia in casa e mi sono offerto di autografargliela. E... Questo devo dire che è anche un bel guizzo, comunque. Sì, esatto, un po' di autoironia nella vita ci vuole. Gli ho detto, ti faccio un autografo, lui mi fa, ma vai a cagare, fa così. E pensa che non è ancora iniziato il pezzo, eh? Non è ancora iniziato, no, ragazzi. Questo no, era giusto, esatto, per mettere un po' di pepe. Mi dispiace deludervi, ma le imitazioni le farò alla fine. Quindi mi dicevi prima, hai barzellette, esattamente, sì. Partiamo con la barzelletta. Va bene, d'accordo. Quante ne hai? Quattro? Quattro, come al solito, sì. E poi una quinta, e poi... E tu è giusto, tu, no, sempre quattro, eh? No, no, stavolta ne ho una quinta che la dirò dopo le imitazioni, perché è un pezzo grosso che avrei voluto dire la volta precedente, ma purtroppo ho dovuto rinunciare, quindi questa volta mi... È che non ho capito niente. Ho detto... La volta... Ma io non è colpa tua, è colpa mia, no, che non ho la capito. La volta scorsa non ho potuto dire una battuta che volevo. E stavolta la dico e mi rifaccio dalla delusione dell'ultima volta. Ma perché no? Ma perché no? Però dovete aspettare alla fine, perché dopo l'imitazione. Non, quindi... andate via, signori. Ma noi aspettiamo. E il pezzo grosso, il pezzo grosso. Vai con la prima, la prenditi prima... tutto il tempo che ti serve. Va bene. Allora, la prima una cagata talmente signori, grossa. Signori, c'è una barzelletta importante, non è che stiamo cazzeggiando noi qua, eh. Cioè, gli artisti si esibiscono, esatto. Vai. Mandali a fare in culo, prenditi la tua attenzione. Vai, comunque sia, la prima la stavo pensando, mi veniva da ridere, cioè ridevo da solo. Adesso però devo stare serio, sì. Va bene? È che con questa premessa se la barzelletta sì, è una devo merda. Devo raccontare le barzellette in modo serio senza che mi venga da ridere, se no non faccio bene quello che sono così fare. Divertenti che cioè, non riesci... No, che sono io che questo brutto vizio di ridere da solo e quindi mi inceppo. C'è il vizio. Devo stare serio. Va bene, io vado. Vai, silenzio. Prima ho visto due scimmie che stavano ballando. Quale ballo stavano praticando queste due scimmie, secondo voi? Non so, pop, dance... Perché magari dalla battuta che nessuno sa la risposta. Non ho capito, prego. Qualcuno ha detto qualcosa? No. No, can-can? Neanche. Tip tap? No, il can-can due cani lo fanno. Se erano due cani facciamo il cancan, sì. Anche te che cazzo rispondi, cioè cancan. No, cioè... no, apprezzo il tuo contributo. Qualcun altro vuole... Brava, l'orango tango, bravissima! Questa era forte. Brava. Le altre sono tutte così. No. No, non ci sarei mai arrivato, ma mai. La seconda è una freddura e mi sembra giusto avvisarvi perché farà un po' male, ok? Ok. Pavia è la città che non vuole i papà, perché Pavia. Questa era forte. Questa l'avevo forte. Detto che faceva male. Spero che sta crescendo. Spero che nessun papà in sala si sia offeso, perché questa no, è stata potete restare, tagliente. Siamo a Milano, non a Pavia, potete restare tranquilli. Ah, ok. Ne hai altre due, occhio, vai. Altre due. Ok, allora, questa me l'ha fatta conoscere una mia amica, mi ha detto di raccontarla e quindi allora amica, sì. Non oso immaginare. Grave incidente a Babbo Natale con la sua slitta. Attende in ospedale un trapianto di renne. Ho avuto questa successo. Questa è forte, ragazzi. Questa c'è, sai, quel misticismo quasi fatta scientifico, no? Giusto. No, vabbè, comunque sia, volevo dire... Prima delle imitazioni voglio dire un'ultima cosa. Voi avete fatto bene a mettervi in ultima fila, ok? Questo qua è uno spettacolo comico, quindi meglio stare in ultima fila. Perché vi starete chiedendo? Perché ride bene chi ride ultimo. Bravo. Sì. Che tra l'altro ultimo può essere anche confuso col cantante. Esatto. No, ho visto che hanno riso anche in prima fila, ok, bene, bene. Quindi funziona. Anche in questa metà funziona. Prima fila, ottimo, non solo gli ultimi, ok, perfetto. Questa funziona, forte. Era l'ultima, no? E la penultima perché dopo le imitazioni c'è il pezzo grosso. Ah. E non vediamo l'ora. Sì, ok, adesso vai. Faccio un'imitazione e voi vediamo se riuscite... Silenzio, ragazzi, perché lui non è che imita, lui prima contestualizza e poi imita. No, dico, vediamo se indovinate il personaggio pubblico che imito. Questo è facile, dai, si parte dai livelli facili, ok? Vabbè, fai tutto tu, Crivio, mi consente, ma che bel posto! Cazzo, aspetta che... Avevo in mente di di portare qualche subretta anche qua. A Striscia ci sono le veline, poi ci sono le olgettine, qua volevo portare le ex algette. Che ne dite? Oh. Fammi indovinare, questo era Demetrio Stratos. No, no, no. Tra tutti non Demetrio, mi chiamo Demetrio, no. Dai, mi conoscete tutti. Sono anche un politico, dai. Come mi chiamo? Wes Anderson. No, no. Dai, chi è che indovina, no, signori? Che... Bravo, sono Silvio D'Arcole. Cioè, davvero hai risposto tu là in fondo? Hai avuto, bravo, hai avuto il coraggio? Già la sapevo. Questa era facile. Vai, vai, quante ne hai ancora? Tre? No, una. Come una? Ma è ottimitazione. No, imitazioni. Una perché c'è, siamo, stretti di siamo stretti di tempo, non voglio neanche far perdere troppo tempo agli altri. No, okay. No, va, tu vai sereno. Allora, questa non è tanto un'imitazione, è una presa in giro a un certo politico. Allora, nel caso ci fosse un'invasione aliena, direbbe: prima i terrestri, aiutiamoli nel loro pianeta. Chi è? Matteo Salvini. Sì, bravo. Questa battuta la volevo dire da mesi, erano mesi che ce l'avevo qua, mesi. Beh, sono quelle... ma sono quelle cose che tu pensi, poi non ti senti sicuro subito, le tieni no, lì. Esatto, esatto. E poi è il momento che arriva, come la merda, ma non perché sia, cioè, il presupposto è il medesimo, quando deve uscire, deve uscire. No, poi adesso dico un'altra idiozia che ce l'ho qua da un po' di mesi, volevo dirla. Da più di mesi, da qualche, più o meno. Da un annetto, mi sa. Questo addirittura un è un anno che si dimenta. Sì. Questo è un anno che si dimenta, ragazzi, è come il vino buono. Ok, meno male che qua a Milano non c'è la Spacca Napoli, se no come si chiamerebbe qua, se a Napoli si chiama Spacca Napoli, qua come si chiamerebbe? Direi Spacca Milano. Esatto, così, Spacca Milano si chiamerebbe. Mi prendi per un po' per stupido se pensi che non ci arrivo. No, però volevo dire, so che ci arrivate, però volevo dirla perché era da un po' che sedimentava, quindi mi sembrava giusto. Consiglio, non tenere lì sta roba un anno. La devo dire tu prima, vai, no, vai, giusto, giusto, fermi giusto, per esatto. Strada, Spacca Napoli, fai, fai. Giusto, ma io avrei voluto fare uno show del genere nella serie televisiva Sopravvissuti. Ecco, una serie televisiva deve rilassarti, farti stare bene. No, Sopravvissuti mette un'ansia perché un sacco di personaggi in quella serie TV sono degli stronzi cagati male, stronzi mal cagati. Perché? Perché ci ti fai? No, perché... Ti vedo sempre sereno, non ti ho mai sentito una brutta parola contro nessuno. Perché i personaggi di quel telefilm sono veramente di una... Ma chi sono? Ma chi è? Allora. Ma qui dov'era il gioco di parole? No, non è un gioco di parole, semplicemente volevo parlare di questa... No, mi hai regalato questi sofismi. Sì. Mi hai regalato questi sofismi per tutta la serata, scommetto adesso che no. Ci sarebbe stato in quella serie TV Vuoi dire qualcosa contro gli extracomunitari? No, vuoi dirlo? Su quella serie TV... C'è un problema. No, su quella serie TV là, perché veramente i personaggi di quel telefilm erano un pessimo esempio di una bassezza, veramente. Non vi siete persi niente se non avete visto quel telefilm, veramente. Io scenderei dal palco. Non vi siete persi niente. E con questo argomento... Ragazzi, questo è Federico Buffa, cioè... Adesso inizia col calcio, fine della storia. Ecco, quanto manca? Giusto per non far no, perdere quanto tempo. Manca? Non voglio far perdere tempo anche agli altri. Vedi tu. No? Io ecco. Voglio che ci parli di Sopravvissuti. Io non ho idea di che cazzo sia Sopravvissuti. È un telefilm, praticamente. C'è la chiusa. No, sì, perché adesso parliamo di televisione e film e telefilm. E allora, l'altra volta avevi citato un film, com'è che si chiamava quello del naufrago? Allora, ragazzi... Quello di Tom Hanks, come si chiamava? Castaway. Castaway, ecco. Vi lascio con questa battuta stupenda che volevo dirle dall'ultima volta che mi sono esibito. È l'ultima. Prendi. Chiudo con questa, allora. Energia. Respira, prendi 5 secondi. Ok. Guarda loro, comunque, guarda loro. Seriamente, se volete passare una serata in famiglia divertente, non guardate Sopravvissuti perché mette ansia. Questo è chiaro. Non la guardate, lo dico per il vostro bene. Non lo guardano, no, sereno. No, semplicemente... Volevo stasera a mezzanotte Sopravvissuti, non succederà. Posso dire perché l'ho citata questa serie? L'ho citata perché mi ha lasciato un brutto sapore in bocca quella serie, volevo sfogarmi. Quindi seriamente, raga, non la guardate. Guardatevi piuttosto Aldo, Giovanni, Giacomo, che sono i miei idoli. Okay, ma neanche io, ma non ho idea di che cosa, non lo voglio sapere. Oh, mamma, ok, c'è l'attore protagonista di quella serie, Lino Guanciale, ma ha sentito parlare mai di Sopravvissuti, mi sta dando la caccia, oddio, aiuto. Dico l'ultima battuta e me ne vado, mi nascondo che c'è Lino Guanciale qua che mi vuole prendere a testate. Raga, Iotobi, cioè, raga, parla mi ha scritto di Lino film. Guanciale. Oh, Lino Guanciale mi ha scritto, oh, coglione, che cazzo parli mai della mia serie? Va che vengo qua ti faccio brutto. Oh cazzo, no. Raga, dico l'ultima e scappo prima che... Io voglio vedere questa cazzo di serie. Dov'è? Va bene, guardala quando vuoi, però poi dici, mi dirai se ti è piaciuto o no. Dammi il numero dopo, cazzo, ti scrivo in continuazione, vai. Ok, allora, uscirà il seguito di Castaway, però non ci sarà Tom Hanks, ci sarà Rocco Siffredi, si chiamerà Cazzaway. E con questa chiudo. Questa era potente. Era da giorni che la volevo dire, l'ho detto, ok. Quanto tempo? Quando sono venuto? 27 ottobre? 27 o 29 era? Sì, vabbè, un giorno. giorno meno. Vabbè, era da fine ottobre che ce l'avevo qua, volevo dire, ecco, sono contento. Ma hai fatto bene, certe cose non bisogna tenerle dentro. No, assolutamente no, ok. E se sta dentro un anno una roba del genere, ti viene nictus, te lo dico sì, io. Esatto. Infatti stai già sudando, io mi siedo. Assolutamente. Siediti, vai, vai, okay. Tranquillo, siediti. Grazie di... Grandissimo. Ah, pigli tu questo... Sì. Scusami, ma cambiamo... non... stasera ho capito, non avevo capito chi eri, adesso ho capito. È molto potente, tra l'altro no, è uno di quei personaggi scomodi che... La roba Lino Guanciale, devo dire che mi ha spiazzato in senso buono. Non capisco che cazzo ci abbia contro Sopravvissuti. No, no, incredibile. Cosa, cos'è che è successo? No, no, no, no, no, no, ma era un momento di cazzo. Dopo magari due minuti ci fai, ci dici. L'ha detta, un l'ha sunto detta. Perché è una merda. Ma... l'ha detta, adesso finisce come Charlie Hebdo. Perché lui è un personaggio veramente scomodo. Proprio lui, cazzo, è satira pungente. Un ragazzo buono stasera, due imitazioni politiche. Lino Guanciale, uomo di merda, e ha fatto il pezzo. No, no, hai parlato male anche di lui, eh? Hai parlato di ma lui, che adesso infatti. Scendi, tiri indietro la mano. Hai fatto nomi e cognomi, amico mio. No, ma lui è scomodo, lui è scomodo. No, io sono, anche, io sono ragazzi... con lui. Ti vedo carico, guarda, hai gli occhi della tigre, te li vedo. Pregando. Aspetta, aspetta, respira. Aspetta un secondino. Ancora. Tendi. Andiamo avanti con un po' di dadaismo. Questa gente ce l'abbiamo solo noi qua. C'è da chiedersi perché. Voi anche pessimista, gente qua non la trovate. Questa di solito la fa Valerio, falla con la sua voce. Vabbè, no, non so imitare, io purtroppo non... Ah, questa, di, questa che pensimi vale non la trovi. Ormai vale tutto, ormai sono... sono amici, versi a caso. Sì, Valerio, non c'entra un cazzo. Vuoi fare tu il nome, te lo ricordi? Sì, allora... Che hai una bella voce impostata. Ragazzi, facciamo, un grande applauso. Regaliamo. Perché ci mettiamo un attimo a entrare in sintonia con lui. Ma non, non irrigiditevi. Un altro personaggio molto potente. Contemporaneo. Ha un'aura potentissima, già la senti da qua. Sta per salire su questo palco, Alexander. Il Rocky Balboa della comicità. E lui è... boh, lui non fatelo incazzare perché se gli girano i 5 minuti... probabilmente scende e vi picchia. Detto come, lo come tsunami... è andata così l'altra volta, esatto. Detto lo tsunami, lui è... Romualdo, Romualdo Tsunami Grieco! Il palco è quello. Sì, un secondo. Io devo recuperare la mia cena. Guardate. Buonasera a tutti. Grazie. Io intanto mi mangio una fetta di bresaola. Appoggio qua. Buonasera a tutti. Come avete sentito, mi chiamo Romualdo. Ho 26 anni. Non so se c'era qualcuno all'altra sera, il 10 novembre. Mi sa di no, ok. Ah, ok. E mi sa che c'erano anche i due signori di presenti che non hanno riso manco una volta alla mia battuta, purtroppo. Mi dispiace, ci riproverò questa volta, fallendo probabilmente. Comunque mi ero presentato con la mia caratteristica principale, ossia che sono un segaiolo, è il mio lavoro a tempo pieno e ci sarebbe un'altra caratteristica da mettere in luce di me e il fatto è che sono un morto di figa. Sì. Mi dico, io ho sempre pensato di non sembrare un morto di figa, ma mi dicevano prima che in realtà lo sembro e posso confermare che in realtà non lo sono così tanto, sono molto peggio. Il fatto è che non so bene quando ho contratto questo morbo, perché effettivamente è una malattia. Che credo di avere dalla nascita, o forse è colpa di mia madre. Dovete sapere che io sono cresciuto a Pane e Disney e voglio vedere voi ad essere allattati praticamente mentre nel frattempo guardate un film Disney. Possibilmente principesse, cioè se tu guardi tutto il tempo mentre tua madre ti allatta Biancaneve, Cenerentola, La bella addormentata nel bosco, è ovvio che alla fine il tuo obiettivo di vita diventerà cercare il punto G. Cioè, mi sembra la palissiano. E i primi sintomi si sono notati quando ho incominciato a camminare. Ho incominciato a camminare un anno e mezzo, ero in campeggio, stava passando la cuginetta più grande di quello che è il mio migliore amico, capelli rossi, Anna dai capelli rossi. Io mi sono alzato, ancora gattonavo, e manco fossi Lazzaro, su in piedi, e non ho incominciato a camminare, io ho saltato uno step, io ho incominciato a correre. Cioè, io non sapevo camminare, ho incominciato a correre dietro questa bambina. Quindi, partiamo bene. Altri sintomi si sono visti qualche mese dopo. Mia madre mi portava in passeggino in centro Monza e io, tutto appena girato lo sguardo, mi sono sganciato, sono sceso dal passeggino, ho incominciato a correre. E praticamente sono andato a schiantarmi sul culo di una ragazza così a piene mani, che si è girata, era pronta a tirare un mal rovescio al maniaco che la stava palpeggiando, invece vede sto scricciolo biondo, dice: "Oh, piccolino, che carino". In realtà ero un cazzo di maniaco, già da bambino dovevano sbattermi in gabbia, perché questo era. Per fortuna, crescendo, diciamo che mia madre ha cercato di educarmi in modo diverso, se no altrimenti non sarei su questo palco e sarei direttamente in galera. Non è vero, in realtà è che non mi ha ancora trovato la polizia. Se dovesse sentire delle sirene è perché mi hanno scoperto dopo l'ultima denuncia per molestia. Niente. Va bene. Detto questo. Allora. Devo riprendere un attimo il filo. Cosa stavo dicendo? E quindi mia madre ha cercato di educarmi in modo diverso e mi ha educato secondo un assioma. L'assioma che tutti gli uomini sono stronzi, tutti sono delle assolute merde, a partire da suo padre, mio padre è la merda assoluta, il suo compagno, poi, perché mia madre si è separata e il suo compagno, quello che poi è diventato il mio patrigno e il padre di mia sorella, merda assoluta anche lui. E quindi io praticamente sono cresciuto con l'idea che io sarei dovuto essere diverso da tutti gli altri, quindi avrei dovuto cercare di comportarmi in modo diverso. Se il maschio comune, diciamo, anela alla forza fisica, alla conquista della donna, insomma, a colpi di cazzo, dallo sguardo di Elena probabilmente a volte ci spera, però non accade così, evidentemente. Tutte lumache come me, lo posso capire. Parte questo. Insomma. Ah, ecco, appunto. Appunto. Mia madre ha cercato di educarmi in senso assoluto, assolutamente opposto. E quindi mi ha educato praticamente il Disney e sessismo benevolo, quindi avrei dovuto cercare, insomma, offrire cene, portare fiori, ascoltare sempre la ragazza in questione, assolutamente mai toccarla, le donne non si toccano neanche con un fiore, assolutamente mai farla soffrire. Poi è arrivata l'adolescenza e durante l'adolescenza diciamo che è avvenuta una sorta di biforcazione della mia natura. E allora, perché io avevo due passioni principalmente, i manga e gli anime, quindi i fumetti giapponesi e i porno. Potete immaginare quindi questa sorta di biforcazione. Io tra i primi manga che ho letto c'era Naruto e One Piece e i miei personaggi preferiti erano Rock Lee e Sanji. Io non so se avete presente, se c'è qualcuno che ha presente, ma diciamo che Rock Lee è un povero sfigato innamorato di una delle protagoniste, insomma, Sakura, che fa team con il personaggio principale, Naruto, e ogni volta lui prende botte, si parla appunto di ninja, e lui prende botte come un sacco da box ogni volta per far colpo su questa ragazza senza mai riuscirci. Mentre poi c'è Sanji, che invece lui ha epistassi per qualsiasi ragazza con un seno prosperoso, quindi praticamente ho avuto due idee da questi personaggi: il fatto che dovessi sbavare su qualsiasi essere femminile vivente, insomma basta che respiri, e l'altra diciamo idea era che non dovessi mai mollare l'osso, mai. Anche se venivo rifiutato in qualche modo, avrei comunque dovuto cercare di dimostrare il mio sentimento in tutti i modi possibili, venendo frienzonato. Ma per me appunto era una sorta di gara di resistenza, una sorta di maratona. Alla fine in qualche modo cede, cioè goccia dopo goccia, anno dopo anno, dai, prima o poi... No, non va così. E poi appunto c'era il porno. E il porno ha sviluppato in me una sorta di belva e di richiamo ancestrale. Non so se avete presente, se qualcuno di voi ha giocato Elden Ring. Elden Ring. Sì, è allora, c'è un personaggio di Elden Ring che si chiama la belva ecclesiastica. Parlavamo di chiesa prima, appunto, la belva ecclesiastica, che è stato costruito guardando praticamente me, gli inviati diciamo della From Software sono stati mandati per vedere me dopo la quinta sega e più o meno la quinta sega in 30 minuti naturalmente stiamo parlando e più o meno l'effetto è questo: I'm not Satan. Bring me more pussy. E niente. E ora, provate ad immaginare questa belva che ribolle e che appunto richiede figa in contrasto con, diciamo, il principe Disney mancato. Immaginatevi, io, per esempio, con le mie varie cotte, magari il, tipo a Sesto Levante in vacanza, che le vedo sulla spiaggia a limonare con altri ragazzi che magari ho presentato loro io stesso, e la parte demoniaca dentro di me che incomincia a dire: ce l'hanno rubata, mio tesoro! E giustamente il principe Disney che cerca di tenerla a bada e dice: lo so, ce l'hanno rubata, ma a cuccia Gollum, a cuccia! E niente. Sì, ogni tanto perdo il filo. Che bellezza, è il momento dadaismo. Arrivando al finale, posso dire che a causa di questa natura e di questa belva dentro di me, io non posso ubriacarmi. Non posso ubriacarmi perché, come direbbe un comico ben più famoso di me, insomma, e ben più grande, visto che è un pilastro della stand-up comedy italiana, Giorgio Montanini, diffidate sempre degli astemi. E io sono molto offeso da questa cosa, perché ha ragione. Ha ragione. Lui dice che gli astemi non bevono perché hanno paura di rivelare la loro vera natura. Ed è vero. Perché io, se dovessi bere troppo e andare, non lo so, in discoteca, probabilmente tra le varie cose che potrei fare sarebbe, non lo so, tirare fuori il pene e sbatterlo sulle tette della prima ragazza con décolleté prosperoso. Oppure potrei semplicemente andare da qualcuno, non si sa se ragazzo o ragazza, e incominciare a piangere e a raccontargli tutta la mia vita, e alla fine dire qualcosa come: ti prego, scopiamo. Oppure, non lo so, potrei recarmi sul tetto appunto del suddetto locale e cercare di buttarmi giù cantando Giving Up dei Linkin Park. Oppure, non lo so, potrei semplicemente tirare fuori il cazzo ed eiaculare in mezzo alla folla. Lo so. E quindi, oppure potrei fare una serenata ad una ragazza. E probabilmente questa sarebbe la cosa peggiore, perché chiunque vi abbia sentito cantare, per esempio quel povero Cristo là, Giorgio, può confermare che lo sperma alla fine si ripulisce, il timpano non te lo ridà nessuno. Quindi, detto questo, momento, capisco che possa servire aria. Una pioggia di cazzi per Rinualdo Grieco. Romualdo, consiglio. Oh, così, proprio. Romualdo, acrivellate. Non bere te. Mangia lo speck, sta a casa, non andare in discoteca. Stai buono. Questo pezzo sembrava un film di Lars von Trier. Signore, quando tornate a casa stasera, passo svelto, che non si sa mai. Sembrava un pezzo di Lars von Trier. Che quel pezzettino lì è buietto. E sei qua lì. Non girano tante persone. Sei lì che guardi tutto e non capisci un cazzo, però ti piace. Com'è la Bresaola? Ma infatti, vedi, arrivi a casa e continui a ripensare a quel particolare. Ma che cazzo significava la Bresaola all'inizio? All'interno di tutto, cioè, è forse un simbolo massonico la io Bresaola? Io dico, ci sarà un motivo di questo. No, è Sorrentino, no. Cazzo. Sì, no, sì, davvero. Potentissimo. Bello il momento in cui vi siete trovati, che c'è stato quello scambio. Lo tsunami. Era davvero, poteva boom, scoppiare tutto. Ma infatti, te l'ho detto, cioè adesso tu rimani lì estasiato a guardare che cazzo sta succedendo, non capisci, ma sei lì. Adesso bilanciamo con un po' di serenità. Esatto. Un po' di serenità. Tranquillità. Serenità. È già un abitué di questo posto. Una leggenda, direi. Ma sì, un po'. È un mito. Un mito. È un cavaliere errante dell'Exalge. Ma tu sai chi è o stai dicendo a caso? No, non lo so. Chi ah, è. No, no, credo, allora, spero. Ma è tutto giusto per lui. Volevo solo capire se era casuale o meno. Lo è chiami devastante, tu? Devastante. Cazzo, se lo chiamo io, assolutamente. Signore e signori, la leggenda Alberto Vitale. Grazie anche per questa presentazione che ha grandi aspettative. E niente, volevo solo dire che all'inizio avete detto che si esibisce per primo a un momento difficile. Posso assicurarvi che dopo Romualdo in effetti non è semplicissimo per noi. E, va bene, niente. Ma intanto scusate, Valerio mi aveva detto, aveva chiesto di offendere il barista coi baffi. Quindi sappi che ti odia barista coi baffi, Valerio. Ci teneva a dirlo. Valerio ti odia, ci teneva a dirlo. Mi dispiace, è così, ci teneva. Allora, niente, io sono venuto qua in bicicletta, non so se anche qualcun altro usa la bici. Allora, la bici è bella, però Milano, devo dire, è un po' pericolosa. C'è molto poco rispetto per i ciclisti, devo dire la verità. Io stavo arrivando contromano dopo aver passato un semaforo rosso e stavo leggendo il cellulare e una macchina è apparsa così dal nulla e mi stava prendendo. E vabbè, ci tengo a dire che anche se fossi stato io a mandare il messaggio era uguale comunque. E in quel momento pericoloso, devo dire, in cui si sta per lasciarci le penne, diciamo, capita che si possa vedere la propria vita come in un film. È un attimo, è incredibile. La mia vita era su Netflix, ma io non sono abbonato, quindi in realtà in quel momento non ho visto un cazzo, è stato un peccato. Un peccato perché c'erano alcuni momenti della mia vita che avrei rivisto volentieri, come ad esempio le elementari con i primi amori. Quando all'elementare ci si scambia i bigliettini, con scritto ti vuoi mettere con me? Sì, no, che immagino si faccia ancora. All'epoca mia anche si faceva, da me, io ne ho ricevuto uno solo, da Giulia, una bambina bellissima. Lei era la figlia di un promotore del comitato referendario e nel suo bigliettino c'era scritto vuoi abrogare il nostro rapporto interpersonale verso una forma più duratura? Sì, no. E non ho mai capito se sì voleva dire no, no, voleva dire sì e quindi niente, purtroppo alla fine non ho mai saputo cosa rispondere e non è successo nulla. Sempre elementari ho avuto dei momenti incredibili, mi piacerebbe ricordarli perché ho avuto due gemelli io in classe, due gemelli di quelli omozigoti, quindi erano uguali, si chiamavano Luca e Paolo ed erano veramente identici, tra l'altro la madre li vestiva uguali come si fanno con i gemelli, che già cazzo sono gemelli se li vesti anche uguali ma non so come facciano a distinguerli, io stesso non li distinguevo, non sono mai stato in grado di distinguerli, però sono sempre rimasto affascinato dai gemelli, da questa cosa, da questo loro rapporto psicologico che hanno anche a distanza, no? Che le emozioni di uno si possono portare a distanza anche all'altro, come il dolore di uno, dicevano, si poteva portare a distanza anche all'altro. E io ne avevo di fianco a me nel banco, e volevo provare questa cosa, e ogni mattina gli pungevo il braccio con un chiodo arrugginito per vedere se provava dolore l'altro. Allora, devo dire, non è mai successo, però ho imparato a distinguerli, perché Luca era quello con il braccio gonfio per il tetano. È stato tutto. Mi piacerebbe ricordare anche i momenti in cui io ero piccolo e se mi ammalavo c'erano i rimedi della nonna. I rimedi della nonna che si usano ancora, i rimedi quelli incredibili. Mia nonna diceva, non so, se ti sbucci un ginocchio mettici sopra una fetta di mortadella. Se hai la febbre vai a letto con un pacchettino di tortellini caldi vicino ai piedi. Se hai la tosse mettiti due fette di brasato sul petto. Allora, devo dire, mia nonna non ci ha mai capito un cazzo di medicina, ma ci teneva molto a far vedere che era una brava cuoca. Sì. Mi piacerebbe ricordare un po' anche i primi amori. Io mi ricordo la prima ragazza di cui mi sono innamorato, era una ragazza carinissima, una ragazza acqua e sapone. Io ogni volta che l'abbracciavo mi sgusciava via. E non sapevo come propormi a lei, devo dire la verità, quindi ho chiesto anche a mia mamma, ho detto cosa devo dirle? E lei mi ha detto, dille quello che ti suggerisce il cuore. E così mi sono avvicinato e l'ho detto tutum, tutum, tutum. E lei mi ha risposto tutum, tutum, tutum, tutum, perché aveva chiesto lo stesso alla madre, ma lei soffriva di aritmia. È stata durissima. E con questa ragazza siamo stati bene assieme, avevamo un sacco di cose in comune, avevamo un sacco di passioni assieme, tutte e due avevamo un'enorme passione per gli animali. a lei piacevano i cavalli e a me piacevano i cani. E, però è incredibile, questa passione ci coinvolgeva anche nel taglio di capelli. Lei portava sempre la coda di cavallo e io li portavo a cazzo di cane. Purtroppo, niente, un giorno ci siamo lasciati, perché, come la vita, io ero diventato vegano e lei aveva le labbra troppo carnose. Mi ricordo anche, vorrei rivedere i momenti dei miei primi lavori. Io, per quanto possa sembrare incredibile, ho fatto anche lo spogliarellista, da giovane ovviamente, e una volta ricordo feci un'esibizione, uno spettacolo in una discoteca frequentata da Colf Filippine. Io gli lanciavo i vestiti e loro me lo tiravano indietro lavato e stirato. No, era incredibile. Vorrei ricordarmi, vabbè, anche i momenti brutti. Mi è capitato di litigare anche con i miei vicini di casa. Mi è capitato una volta, mi hanno accusato di avergli rigato la macchina con un chiodo. E questo solamente perché così sono affacciati in casa mia e hanno visto che avevo un crocifisso così. E quindi nella mia vita ci sono tante cose che mi piacerebbe ricordare. Mi piacerebbe anche ricordare, dicevo, le cose brutte, come i rimpianti. Che nel mio caso vorrebbe dire che vorrei aver avuto scopato più ragazze. O come i rimorsi, che nel mio caso vorrebbe dire che vorrei aver scopato più ragazze, però belle. Sì. E mi piacerebbe ricordare anche le serate nei locali, come questo, ci sono tanti amici del Cicco Simoneta, quindi i locali bellissimi, i locali di cui si fa cabaret, o come prima quando c'era Romualdo, quei pezzi belli che non ti alzeresti mai dal tavolo, no? E continueresti a sentire battute o i pezzi in continuazione senza mai distrarti. A me è sempre successo, mi capita tuttora. E in quei momenti, devo dire la verità, io non mi alzo, non vado neanche in bagno. Cioè, se devo andare a far pipì, vi dico la verità, la faccio in un bicchiere. E mi piacerebbe ricordarmi davvero tutto questo. Ragazzi, mi devo ricordare che non mi piace la birra calda. Capolavoro! Alberto Vitale. Vedi la leggenda, la leggenda. Però vedi, ha dato un senso e anch'io mi chiedevo che cazzo serve quel bicchiere. E infatti è la prima volta che ti vedo salire con un bicchiere e tutto... Porca volta... miseria, guarda. È come Romualdo, tiri fuori il cazzo. Esatto. Una roba assieme se volete. Un crossover, sì, Alberto, esatto. Vitualdo. Vitale roba... incontra Romualdo. Pazzesco. Siamo quasi alla fine, poi magari succederà qualche imprevisto. Due ce ne mancano. Due, in teoria, sì. Poi magari, sì, vediamo. E vuoi dire qualcosa di particolare? No, non la conosco. Nemmeno io, quindi. Ah, perfetto, allora la chiamiamo e basta. La conoscerà Valerio Erò? Non lo so. Conosci che... Valerio Erò? Perfetto. Conosci nessuno? Perfetto. Bella, come ci hai trovato? Stavi cercando Romualdo perché in realtà sei una sbirra. Era amica tua Romualdo? No. Sei sicuro? Non lo mettere in imbarazzo che già c'ha dei problemi questo ragazzo. No, no, qui mi sei ingiusta, qui mi sei ingiusta. Sì, però spiegami la Bresaola, ti gli prego. Gli piace molto tirar fuori il cazzo. Sta stovezzo il ragazzo, è così. Quindi anche per lei allora? Questo stai peggiorando la ragazzi, situazione. Ragazzi, un momento! Però. È un loop infinito adesso. Volete raccontarvi qualcosa, avervi una roba? Dopo, è meglio dopo. Signore e signori... Quindi, pioggia di cazzi per Chiara Cherubini, allora. Quale microfono vuoi? Scegli. Prendili entrambi. Vabbè, io non abbraccio più nessuno adesso. Mi ha messo... È stato molto dolce, non so. Buonasera, buonasera, mi presento, sono Chiara Cherubini. Che serata, eh? E chi se l'aspettava? Dicevo, Chiara Cherubini, 44 anni, ma mi piace di più a cifre invertite? A casa, poi ve la ridete con calma a casa, non vi preoccupate. Immagino che nessuno di voi si sarebbe aspettato una serata del genere, soprattutto... di vedere sul palco una che parla travestita da sacco dell'umido, ma è così. E in realtà c'è un motivo per cui... C'è qualcuno che mi conosce, che mi ha già visto? Vabbè, a parte quello lì. Io sono sempre vestita di nero per pigrizia, perché non ho voglia di abbinare i colori sopra col sotto. Pensate il livello di pigrizia. La Meloni direbbe che ho delle devianze giovanili, no? Giovanili si fa per dire, ma delle devianze giovanili. Mi direbbe, fai sport! Ha una pigra, dici fai sport, è come dire a uno che sta affogando, nuota! Non è molto... Io però cerco di combattere questa mia pigrizia e ho scoperto che ci vorrebbe una figura ad aiutarmi, che non è la badante, non è il filippino quello che gli lancia le cose e te le stira, ma è qualcuno che mi svegli la mattina, che mi dica cosa fare, che mi dica chi devo vedere, chi non devo vedere, che vestiti mettermi, che mutande indossare, che mi compri le mutande. Come si chiama una figura così? Life coach. Life coach. Si chiama moglie, si chiama! La moglie la svolta, altro che life coach! Che poi la moglie invece della life coach, la moglie è gratis. Insomma, mi dicono si paghi a rate, poi se la restituisci alla fine c'è la maxi rata finale e si svaluta parecchio in fretta, così mi dicono. Però la moglie secondo me è la svolta, è la volta in cui io riuscirei a fare qualcosa, che poi in realtà io ogni giorno mi dico allora da domani si cambia tutto, mi sveglio presto, mangio sano, faccio sport, poi un pisolino, poi un altro pisolino e l'unico modo per combattere realmente la pigrizia poi alla fine è il modo più naturale possibile, ovvero cercare lavoro. È proprio l'antitesi, no? Pigrizia, lavoro. Nella mia vita ho sempre cercato dei lavori molto facili. Ma non che si dica che noi al nord sappiamo tutti lavorare. Io no. Ecco, ci tengo a dirlo. Ho sempre cercato lavori molto semplici, dove non si fatica. Il mio primo lavoro, 18 anni, centralinista. Ho detto, questo è facile, sto seduta sul telefono, che ci sarà mai? Per un 144... L'144, per chi non lo sapesse, è stato uno dei primi telefoni a pagamento. Chiamavi e avevi un servizio. Agenzia immobiliare, agenzia matrimoniale, chat con meravigliose cubiste. Nel caso mio, parlavi con Lady Domina, dominatrice. Sì, ma al telefono, perché è facile per le dominatrici, di persona non la frusta, fanno le... Io la facevo in DAD, io sono stata la prima dominatrice in DAD. Per frustarlo gli dicevo, che ne so, boh, lanciati la cornetta addosso. Che poi era una chat di dominazione, ma bigotta. Perché non dovevo dire le cose birichine in realtà, cioè dovevo dominare senza dire cose sessuali. Perciò non potevo dire, leccami gli stivali. Potevo dirgli asciugami l'infradito, non potevo dirgli inginocchiati, potevo dirgli siediti scomodo, tutto al più. Guardate, è difficile ordinare al telefono, io che non riesco a ordinare neanche su Glovo soprattutto, ma mi ero inventata questa cosa, gli facevo pulire tutta casa, metti le cose in lavatrice, lava i vetri, spazza a terra, così almeno le mogli la sera tornavano a casa e trovavano tutto pulito, girl power. Il lavoro è durato poco, lo immaginavate. Ho cambiato e sono diventata imprenditrice di me stessa. Ho cominciato su internet a vendere biancheria usata, avevo proprio un catalogo, c'erano bionde, more, brasiliane, africane. Non è vero, erano sempre le mie. Anzi, avevo una catena di montaggio, le mettevo una sull'altra, per produrne più velocemente, poi le imbustavo in comode bustine salva freschezza. Praticamente Amazon l'ho inventato io. Anche questo è durato poco. E quindi sono riuscita a trovare finalmente il lavoro dove non si fa veramente niente. Devo solo stare lì, ferma. Facevo la modella di nudo per un'accademia d'arte. E funzionava così, non mi facevano spogliare subito perché per non prendere freddo. Quindi i ragazzi intorno cominciavano ad abbozzare il disegno intuendo le forme. Poi mi dovevo spogliare però. E questi ragazzi che probabilmente le tette le avevano viste solo sui porno hanno un po' esagerato. Per cui quando mi sono spogliata dal fondo dell'aula si è sentito l'insegnante: se avete bisogno di una gomma ce le ho, ragazzi. E quindi ho abbandonato anche questo. Ma questa cosa del lavoro non sarà sopravvalutata? Io infatti ho smesso e infatti faccio la comica. Grazie! Bene, siamo un po' corti perché non c'è Valerio, quindi questa è una cosa positiva perché sta andando tutto nettamente più spedito. Abbiamo l'ultimo, ma visto che sono qua faccio 10 minuti, se vi va vi racconto una cosa. Se è un sì è sì, se no ditelo subito che me ne vado, non mi offendo. Ho sentito sì, va bene. Va bene, non c'è problema. Vi racconto una cosa che mi è successa 20 anni fa. Forse l'ho già raccontata qua, credo di sì, non me lo ricordo. Ogni tanto lo racconto, ma faccio sempre una premessa perché non è che dirò delle robe un po' particolari, qualcuno magari può anche un po' offendersi, tra virgolette, ma non è che la racconto perché voglio scioccarvi, no, è semplicemente per farvi capire il contesto in cui sono cresciuto. Abito a Milano da 15 anni. Sì, quasi 15 anni, ma vengo da un piccolo paese di 2000 abitanti della provincia di Mantova e per i primi 21 anni della mia vita ho abitato in questo paese di 2000 abitanti, quindi sono nato nell'83, quindi 2000 abitanti negli anni 90-2000, quindi 20 anni fa, non il mondo che è adesso. E la cosa particolare di abitare in un paese di 2000 persone, banalmente, è che il concetto di compagnia, cioè delle persone con cui esci, non è basato semplicemente sui tuoi compagni di scuola, sulla gente della tua età. In un paese di 2000 persone ti conosci tutti, quindi praticamente sei abituato anche a uscire con persone o più grandi di te, anche molto più grandi di te o anche molto più giovani di te, a seconda di quante età hai. La storia che vi racconto stasera l'ho condivisa con 3 persone. La prima persona è il mio amico Marco, sono nomi falsi, farò dei nomi falsi perché è successo di tutto in questa serata, ogni tanto mi sbaglio e faccio i nomi veri. Capirete perché il nome falso e il nome vero sono molto simili. Quindi questo Marco, che nel 2000, quindi 20 anni fa, faceva il camionista e aveva i capelli a spazzola con le mesh bionde. Oggi, nel 2022, fa ancora il camionista e ha i capelli a spazzola con le mesh bionde. Ragazzo coerente, persona più normale del gruppo. Il secondo è Igor, un ragazzo che ha 2 anni più di me, quindi all'epoca aveva 22 anni, ragazzo squisito, bravissimo ragazzo, pezzo di pane, gentilissimo. Il problema che ha come particolarità il fatto di essere bruttarello, brutto. Ma è brutto in un modo un po' particolare, non in modo convenzionale. Lui stesso, che è molto autoironico, di se stesso dice: io sono talmente brutto da essere a tanto così dal confine con il ritardo mentale. Se noi fingiamo che il ritardo mentale è la Francia, il mio amico è Ventimiglia. Con tutte parole sue, un ragazzo molto autoironico. Vi racconto anche quando è nata questa definizione. Molti anni prima eravamo a Barcellona, la classica vacanza tra amici maschi di 18-19 anni, quindi siamo in 4-5, ad un certo punto siamo tutti sulla scala mobile. Io e questo gruppetto di amici in alto, scala mobile che stava salendo, non eravamo ancora arrivati sopra. E Igor, poco più sotto di noi, classico con la maglietta del Barcellona, cioè sei in Spagna, sai il classico che si compra la maglietta del Barcellona e se la mette quei 4-5 giorni, ok. Noi che eravamo più in alto, ad un certo punto arriviamo sopra, siamo quindi a livello della strada e vediamo di spalle un ragazzo, di spalle con la maglietta del Barcellona. Questo ragazzo si gira, vediamo che effettivamente è ritardato, senza metterci d'accordo ci giriamo di scatto verso il dietro, dove c'era Igor e iniziamo a ridere. Lui intanto sta salendo, non capisce perché noi ridiamo. Arriva al nostro livello, vede anche lui il ragazzo, fa per incazzarsi e poi dice: avete ragione. E quindi da lì è nata questa definizione. L'ultima persona della storia che vi sto per raccontare era all'epoca un quarantenne, quindi aveva 20 anni più di noi, ma era un quarantenne paraplegico con un cappello rosso della Ferrari sempre in testa in sedia a rotelle. Per farvi capire, Jean Todt nelle stesse condizioni di Stephen Hawking. Se non sapete chi è Jean Todt, Alvaro Vitali nelle stesse condizioni di Stephen Hawking. 00:30, siamo in un paese di 2000 persone, io e questi 3 elementi, a 00:30, soprattutto negli anni 90-2000, in un paese di 2000 persone non c'è molto da fare. Noi volevamo andare a letto, Alberto, che appunto in sedia a rotelle era un'occasione quella sera per lui di svago, non voleva giustamente andare a letto così presto e quindi l'abbiamo accontentato e quindi siamo andati al night, perché lui aveva le passioni per le spogliarelliste. Sei da rotelle, ma uno può avere anche la passione per le spogliarelliste. Le due cose non sono legate. Comunque, per chi non avesse dimestichezza con i night, sono quei posti dove si paga da bere per tutta la sera delle ragazze per poi non concludere un cazzo. O come li chiamiamo noi maschi, appuntamenti. con questa ci metto un attimino, perché magari c'è quello che spende e conclude. Comunque, il trucco per andare al night è, come dire, non farsi spellare vivi, perché poi lo scopo delle spogliarelliste al night è quello di portare via più soldi possibile al malcapitato di turno. Noi eravamo degli uomini di mondo, decidiamo di andare con i soldi contati, cioè quindi 10 euro per l'ingresso, carte di credito e bancomat lasciate nella macchina che non sarebbe partita. L'unica persona che però si oppone a questo era il guidatore, che dice: cazzo, magari succede qualcosa, un'emergenza, mi porto la carta, non si sa mai. Errore. Arriviamo al night, io, uno biondo mesh, uno brutto ritardato, uno in sedia a rotelle, e il buttafuori giustamente ci guarda e ci squadra per quello che siamo. Sembra che stiamo facendo il remake down di Una notte da leoni. Sembriamo gli Avengers della 104. Cazzo, camminiamo a rallenti. Però abbiamo i nostri 10 euro e quindi paghiamo, moneta sonante, paghiamo ed entriamo. Abbiamo diritto alla consumazione omaggio. Non era un night, come dire, di primissimo livello. Era proprio una roba di quarto ordine, di paese, zone di provincia nostre. Quindi andiamo al bancone, ordiniamo, ci guardiamo un po' intorno. Ora, l'ambiente night è un ambiente un po' particolare. Si divide tra, sostanzialmente, uomini depravati e compagnia di ubriaconi. Come fare a distinguerli? Se il maschio è da solo, tendenzialmente è un depravato. Se sono più di due o tre, tendenzialmente è una compagnia di ubriaconi, quindi poco dannosa. Se poi c'è Romualdo da solo, qui ragazzi si apre un macro mondo. Comunque ci guardiamo un po' intorno e cerchiamo di non farci spennare. Ora, le spogliarelliste sono molto furbe e, a differenza delle donne normali, sono gentili. E quindi un maschio medio che non è abituato a ricevere parole di gentilezza da una donna gli parte la trebisonda e quindi fa l'errore che non deve fare al night, ovvero quello di offrire da bere alla spogliarellista di turno. Perché se voi offrite da bere alla spogliarellista di turno, siete catapultati immediatamente dal divanetto su cui siete seduti a un divanetto all'interno del privé, dove sarete soli con la spogliarellista, quindi molto più vulnerabili, e quindi lei praticamente vi potrà spennare come cazzo vuole. Ma a questo stratagemma che usano loro, ovvero la gentilezza, la cordialità, esiste uno stratagemma che anche noi, cioè io adesso non lo sono più, lo sono sempre stato di sguercio cliente, ma anche che i clienti abituali usano con le spogliarelliste. Cioè, quando lei viene lì e ti chiede: scusa, mi offri da bere? Tu ti prendi un tempo scenico alla Gasman, ti alzi in piedi, batti il piede su per terra e dici: no, non ho soldi. Cazzo, tutto il night si blocca e subito vieni guardata come un appestato. Questo è molto molto semplice, bisogna solo avere la barra dritta per poterlo dire. Siamo lì, beviamo, l'ormone inizia a girare, il tasso alcolico inizia a girare, da lontano c'è una spogliarellista, molto bella, molto poco vestita, molto provocante. Arriva dritta dal mio amico Marco Mirko, non mi ricordo mai come lo chiamo, che è molto ubriaco. Si arriva, fa due moini, due sorrisi, lo tocca e ad un certo punto la ragazza scatta col trappolone: scusa, mi offri da bere? Mirko Marco, che conosce benissimo il trucco che vi ho appena detto, è ubriaco come la merda e quindi lo parafrasa. Si alza, batte i piedi e fa: scusa, ma non ho contanti. E lei: che problema c'è? Ho il POS. Pip pip, il primo lo abbiamo perso. E è rimasto in tre. È lunga, eh? Un po' lunga sta storia. Si è rimasti in tre. Io, quello in carrozzina e quello molto brutto da sembrare, ok. L'ormone sta iniziando a salire, poi il fatto di aver perso uno della banda comunque non ha generato tutta la convinzione di riuscire a gestire la serata come speravamo. C'è aria di ammutinamento e Igor sta iniziando ad avere un tasso di eccitazione pari a quello di Alberto Genovese quando faceva le feste a Terrazza Sentimento. Boh, se ve lo ricordate, è stato un po' nelle cronache un po' di tempo fa. Quindi è molto molesto, molto inizia a urlare, fare, brigare, rompe i coglioni. Al che io salgo in catto e dico: oh, Igor, hai rotto il cazzo, basta, sei molesto, e poi fammi capire come cazzo convinciamo uno spogliarellista a fare un privé gratis con uno talmente brutto da sembrare un ritardato. E appena finisco la frase, Alberto interviene e dice: scusate, ma il fatto che Igor non è ritardato lo sappiamo solo noi. Parte la grande truffa. La musica di Ocean's Eleven può partire. Mi avvicino alla spogliarellista e le dico: ciao, lo vedi quel mio amico? E lei: Jean Todt in carrozzina o quello ritardato? Quello ritardato. Allora, poveretto, è il suo compleanno, in quanto ritardato in questo paese non è che abbia molti diritti, quindi sai, se facessi la cortesia di essere un po' gentile, un po', insomma, così, affettuosa. La ragazza, vedendomi l'unico, poi si fa per dire, normo dotato tra i tre, mi scambia per un assistente sociale, volontario di una cooperativa, Abubakar Sumarò, non so, non mi faceva ridere una cazzata. E, comunque, è un po' intimidita, dice di avere 23 anni, di essere moldava e di chiamarsi Irina. Accetta, ha una condizione, visto che non ha mai fatto niente con un ragazzo, diciamo, un po' particolare, chiede a me se posso essere presente anch'io durante il tutto. Sono un po' reticente, ma mi rendo conto che è l'unica condizione da darle, altrimenti non ne venivamo a capo. Torno indietro, dico: Igor, ce la fai, te la senti? E lui, tranquillissimo, deciso, bene. Siamo all'interno del privé. Per chi non ha dimestichezza, i privé sono dei cubicoli, molto stretti, saranno 2 metri per 2, divanetti neri di quarto ordine, luci molto basse, musica a palla, una mezz'oretta a memoria costa 50 euro, tu non puoi far niente, non puoi spogliarti ovviamente, può solo spogliarsi la ragazza balla, tu non puoi toccare la ragazza e soprattutto la ragazza non può toccare te. Ma se la ragazza crede che tu sia ritardato, cazzo se la fa un'eccezione. Tempo 2 secondi, la ragazza stava facendo una sega al mio amico e io, mentre guardo tutta quella scena, penso: cazzo, quanto è triste la tua vita, Andrea, perché la tua prima cosa tra è in compagnia di una spogliarellista moldava che sta facendo una sega a un finto ritardato. Manca un pezzo, come sei arrivato qua? La ragazza fa quello che deve fare, io ovviamente sono dall'altro angolo, l'ho detto, non era esattamente un night di primo livello, Non era un po' il discount, l'LD dei night, non so che supermercati scrausi ci sono qua. Comunque io sono dal lato opposto, la ragazza ormai è a suo agio, sarà la mia presenza, sarà che probabilmente ha fatto di peggio nella vita, e ad un certo punto si apre un po' di più e ci racconta di non essere davvero moldava, ma di essere rumena, ma di preferire di dire di essere moldava a causa, a suo dire, della reputazione da troie che hanno le rumene. E lo dice mentre fa una sega a un finto ritardato. La mente umana è strana. E la ragazza però si apre sempre di più e ad un certo punto ci dice: cazzo, ho dei parenti in Moldavia. Racconta, se mai ci doveste andare, andate a vedere Chisinau. Cazzo, la capitale, Chisinau, la città più importante, la città che una volta, grazie ai suoi maestosi palazzi, palazzi maestosi e regali, si era guadagnata l'appellativo di città bianca. Bianca come la sborra che in quel momento esce dal cazzo di Igor. Privé è finito. Il ragazzo rimette il cazzo nella fondina. Usciamo dal night, introviamo gli altri due. Macchina e tempo di bilanci. Mirko, Marco, si chiama Mirko nella vita, era molto contento del suo privé, anche se aveva speso 400 euro. Che comunque, ve l'ho detto, una volta mi offri da bere, un'altra volta mi offri da bere, fai mezz'ora con la signorina, dai, facciamo un'altra mezz'ora, van via 400 euro, che è una rata di mutuo. Però era molto contento. Igor era molto contento del suo privé, perché comunque è riuscito a ottenere tutto quello che ha ottenuto a gratis. Io non ero per niente contento del mio privé, perché io non volevo starci proprio lì, su quel divanetto, a guardare la cosa da lontano, ma tant'è. La vera sorpresa è stata vedere Alberto, signore tetrapegico o quant'altro, che avevamo lasciato solo quando io ero andato con Igor a fare le mie cose, molto contento del suo privé. Quindi noi tutti scopriamo in quel momento che anche lui aveva fatto un privé. E la domanda sorge spontanea: siamo tutti senza soldi, quello col banco ma ti è partito per primo, com'è che hai fatto fare un privé? Lui, seduto davanti, perché la carrozzina la metti nel baule e quelli tetraplegici di solito li pianti davanti, perché non c'è altro verso, gira quel poco di collo che riesce a girare, si prende una pausa scenica e dice, risponde: ragazzi, fatemi capire, il finto ritardato si è fatto fare una sega, sta a vedere che il vero handicappato non riusciva a farsi fare un bocchino. Signore e signori, è stato un piacere. Pezzo finisce così. Io non ho detto che doveva far ridere, io ho detto la risposta che ha dato. Andrea Fadenti. Grazie. Che tra l'altro... pensate com'era bella Mantova negli anni 90. Hai risolto un grandissimo problema con questo pezzo, perché appunto abbiamo millantato fosse una serata di stand-up e nessuno aveva ancora detto sborra. Quindi... io l'ho detto diverse perfetto. Volte. Io ci ho messo ottimo. Dentro tutto, ho fatto un bel minestrone. Tutto quello che potevo toccare. Questa era parte del pezzo. Adesso è con vero piacere che siamo in chiusa. Sì, siamo in chiusura. C'è un amico. Un'altra leggenda. Da una terra ostile. Esatto, il Valhalla dell'Italia. Praticamente lui è disceso direttamente con noi. Da una zona ostile d'Italia. È arrivato qua, dalla terra di De André. Dalla terra di De André, il figlio. dei due De André. Di un sacco di De André. Anche la figlia sarà nata lì, immagino. Esatto. Immagino di sì, da un sacco di De André. Di tutta la famiglia De André. De Andrea, Di Marco. A cazzo c'era il gioco di parole. Sofisticato. Non mi ero accorto io del livello. E adesso questo... dov'è Dante, Allora, tanto faccio un pezzo che è fatto di premesse. La prima premessa è che non sono proprio di Genova, ma sono di Bolzaneto. Avete mai sentito che è un po'... potrebbe essere paragonato, che ne so, a Rozzano, a... un posto dove negli anni '80, io sono musicista, no? Poi mi piacerebbe finire con un pezzo di chitarra. Negli anni '80, diciamo, c'era stata una moria di gente, eroinomane, avevi due possibilità: o cadevi nel tunnel della droga, come tanti miei amici, eccetera, oppure invece suonando uno strumento c'era la possibilità di emancipazione, libertà, eccetera. E io ho imparato a suonare la chitarra 2 anni fa, quando sono uscito dalla comunità, e ho iniziato a fare tutto un mio percorso, no? E, se vi va, io parlerei proprio di me, che non sono proprio di primo pelissimo. Io sono del 1969 e quindi, come diceva Elena prima, c'è già il tono un po' da documentario. Quando si sente. Nel mio caso, 1969 è quasi Istituto Luce, no? Il ragazzino! 1969, tre fatti sono successi. Woodstock, che penso che avete già sentito parlare. Sì? No, perché siete molto giovani, mi tocca essere un po' didascalico, però se vi va, c'è stato il primo passo dell'uomo sulla Luna, vi ricordate qualche immagine, eccetera, e poi è stato il primo campionato che ha visto il Genoa retrocedere in Serie C. Ora, questo lo so che a voi non ve ne frega un cazzo, giustamente, perché sia qui a Milano non ne frega, però è una premessa che invece è necessaria per capire un po' di me, perché essere genuano ha un po' a che fare con questa autocompiacersi della sfiga che si ha, no? Il Genoa è stata la prima squadra che ha portato il calcio in Italia. E all'inizio vinceva tutti gli scudetti il Genoa, no? Quindi una grandissima decaduta. Vincevamo tutti gli scudetti perché siamo stati la prima squadra a portare il calcio in Italia, ma non abbiamo portato gli avversari e quindi vincevamo. Poi sono arrivati gli avversari e abbiamo iniziato a vincere scudetti, ne abbiamo vinti 9, ce ne manca uno, quello della stella. Questa stella è diventata un po' la nostra chimera, no? Un po' la terra promessa, belli. Siamo gli ebrei del calcio, no? E il vantaggio che ha essere genuani, è un po' mi verrebbe anche da consigliarvi di essere genuani, perché se tu hai una vita di merda, magari ti va male il lavoro, ti va male l'amore, eccetera, vai a vedere giocare il Genoa, vedi giocare ancora peggio, e ci fuori dice, però vabbè, la mia vita non è... È un rivalutatore di vite di merda, no? Ok, questa è una premessa. La seconda premessa, 1969, l'ho detto. Ah, 25 gennaio, vi dice qualcosa? 25 gennaio 1969. Il 30 gennaio 1969 i Beatles sono saliti sul tetto degli Abbey Road Studios e hanno fatto l'ultimo concerto 5 giorni dopo la mia nascita. Coincidenza? Io penso più passaggio di testimone, ok? E infatti io ho vissuto nell'illusione così di essere un nuovo John Lennon. Avevo 14 anni, mi sono fatto crescere i capelli, avevo gli occhialini come John Lennon. Poi a Bolzaneto, asiatica non ce n'ero, ho preso una di Catanzaro, che però a quei tempi andava... dov'è Ciccio? Tutto rispetto. Quindi, essendo nato nel 1969, sono stato bambino negli anni 70. Ora, gli anni 70, pochissimi di voi hanno vissuto gli anni 70, li chiamavano gli anni di piombo, pertanto per far capire quanto erano a misura di bambino, no? Era una figata, perché a quei tempi facevano vedere i morti in televisione, no? Tu accendevi la televisione, vedevi quello sparato così, le macchie di sangue, cioè Quentin Tarantino a quei tempi non avrebbe fatto un cazzo perché non serviva, li vedevi in televisione, e infatti... Io a 6 anni da grande volevo fare il brigatista, no? Era proprio il mio sogno, perché le Brigate Rosse, non so se le avete mai sentite nominare, le Brigate Rosse erano i cattivi di questa serie TV che guardavamo alla televisione, che si chiamava Il Telegiornale, no? Non era Survivor. Non lo guardiamo Survivor. Era il telegiornale, era una serie bellissima che andava moltissimo in famiglia perché era interattiva, cioè l'attore principale, che è quello che leggeva le notizie, interagiva con mio padre, che lui leggeva la notizia e mio padre, bastardo, pezzo di merda, alla parola Andreotti, mio padre partiva con uno sputo proprio automatico, che però non arrivava mai al televisore per la distanza, e non arrivava neanche al carretto siciliano che c'era sotto, che in tutte le famiglie degli anni 70 c'era, ma arrivava sempre la stessa piastrella esagonale di sotto. Andreotti, questa piastrella, appena sentiva Andreotti faceva perché lì giorno dopo giorno, Andreotti dopo Andreotti, goccia dopo goccia, è venuta una stalattite. Venivano i turisti a fotografare mentre eravamo lì che mangiavamo, che mi parlava, pezzo di merda, facevano le foto. In famiglia eravamo comunisti. L'avete mai sentita sta parola? Negli anni 70 il mondo era diviso in due, l'Italia era divisa in due, Bolzaneto era divisa in due, Bolzaneto Est e Bolzaneto Ovest. C'era il filo spinato che delle volte tagliava proprio le case della gente, c'era della gente con mezzo divano nella Bolzaneto Est, lì al freddo, al gelo, e dall'altra parte invece lì champagne. E infatti io gli avevo chiesto a mio padre, papà, ma spiegami un po'. Allora mi ha detto, capisci Andrea, noi siamo comunisti, i comunisti stanno con i proletari, i poveri, punto di riferimento, l'Unione Sovietica, mai una gioia. Dall'altra parte c'è la Democrazia Cristiana che invece sta con il consumismo, con l'Occidente, l'America, come nella famiglia dello zio Sergio, che quando viene Natale i bambini gli fanno tanti regali, trenini, ma io dico, papà, noi... E lui dice, no, noi siamo comunisti. E lì ho capito che anche in politica eravamo genuani. Tornava tutto. Eravamo comunisti. E quindi tutta la vita veniva fatta da comunisti. Mia mamma raccontava le favole da comunisti. Cappuccetto Rosso, la storia di una bambina staffetta partigiana che portava le armi alla nonna nel paniere, veniva interrotta dal lupo della Gestapo, la Gestupo. Eravamo comunisti, cioè il prete a quei tempi andava a benedire le case di tutti, da noi la veniva a maledire, vaffanculo, vaffanculo. Mio padre ci teneva anche di là, vaffanculo. E poi arrivava l'estate e i comunisti d'estate, io ero a Genova, a Bolzaneto, la facevamo in Liguria, ma non in Riviera, in Liguria, in un posto che si chiama Rossiglione. Lo conosci bene? Masone, l'avete mai sentito parlare? Masone è uno dei posti più piovosi d'Italia, no? Fate conto che i posti nel mondo più piovosi sono l'Irlanda e il Galles, no? In Irlanda, quando piove 7 giorni consecutivi, cioè piove come in Galles, e in Galles, quando piove 7 giorni consecutivi, piove come Masone, no? Tanto per... Rossiglione è lì vicino, è un amazone che non ce l'ha fatta, non ha nemmeno questa fama. E però noi andavamo lì, Rossiglione, forse per il nome Rossiglione. Il problema era che a quei tempi non c'era la A26, l'autostrada, no? Per cui per arrivare lì ci si metteva molto meno rispetto adesso, no? Pensavo che solo in Liguria passasse questa... Vabbè, comunque, il costo da pagare però qual era? Le curve. Allora, forse voi siete tutti giovani, non vi ricordate, credo nel 1974 il governo Fanfani fece un editto, una legge, che obbligava ogni nucleo familiare ad avere almeno un bambino che vomitava nelle curve. E in quella famiglia ero stato eletto io il bambino Fanfani, no? Quindi si partiva, allora la formazione era la macchina, era una 127. Per chi studia gli anni 70 si parla di un SUV, no? Alla guida c'era mio padre, il compagno Vittorio. Braccio sinistro fuori, col pugno chiuso sempre, che se incontrava il sosia di Gramsci, compagno. E con l'altra fumava. A quei tempi si fumava dappertutto, bellissimo. E mio padre spegneva una sigaretta, ne accendeva un'altra, no? Braccio fuori, sigaretta, non so, il volante forse con l'uccello lo... A fianco c'era la nonna Teresa. La nonna Teresa era la cosa più grande che avessi mai visto nella mia vita. Io mi ricordo, ho questo ricordo anche degli anni 70, di quando spiavo, quando facevano la puntura a mia nonna, no? Guarda, dietro lo stipite vedevo sto culone enorme, tutto bianco con i crateri, no? Quando ho visto le prime immagini del primo uomo sulla luna, io pensavo che fossero atterrati sul culo di mia nonna. Era quella, no? Abbiamo un problema a Houston. Io pensavo che fosse una... Dietro, in questa 127, c'eravamo io, mia madre, mio fratello, mia sorella, il cane, ecco, io pensavo che 127 fossero il numero di esseri viventi ammessi all'interno dell'abitacolo, infatti l'anno che abbiamo preso i pidocchi siamo su col 1100, no? Tornava tutto. E il canarino poi non era proprio della famiglia, lo prendevamo in affitto solo per calcolare la saturazione dell'ossigeno all'interno dell'abitacolo mentre si andava, perché era a metà viaggio, tirava il gambino, faceva il volo. E c'era questo problema qui del fatto che io vomitavo, no? E mia mamma lo sapeva, all'inizio si metteva il giubbotto della protezione civile, iniziava la distribuzione dei sacchetti antivomito, poi le uscite di sicurezza, no? Queste cose qui, e si partiva. E mio padre diceva la fatidica frase: Andrea, mi raccomando, se ti senti male, dillo che ci fermiamo. Si partiva, curva, iniziava a sbiancare, papà, mi sento male. Qua non possiamo fermarci. Non si è fermato mai sto bastardo. Una volta per comprare le sigarette, lì ho approfittato per vomitare. E si andava su, c'era questo passo che si chiama il passo del Turchino. Lo conosci? Beh, io lo conosco benissimo. Passo del Turchino, che già mi immaginavo questo turchino, un turco piccolino che scriveva sto passo di bastardo, tutto curve. All'ennesima curva, lì sto geyser che avevo dentro, che veniva compresso ad ogni spostamento. A un certo punto, lì le cose che sto per fare non vabbè, certo, non lo so se si può vomitare in scena, no vabbè, ennesima curva, parte tutto, pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom, i miei fratelli vedendomi vomitare, pom pom pom pom pom pom, la cagnetta vedendoci vomitare, pom pom, però lei era educata, quello che vomitava se lo rimangiava subito perché non voleva lasciare tracce, e si arrivava fino a Rossigliore. Il problema era, cioè no, il problema, la cosa che aveva mia mamma per non farci vomitare, l'unica cosa che funzionava un po', era quando diceva: bambini, cantiamo. Però, lì, figli di comunisti, non è che cantavamo le tagliatelle della nonna Pina, no? Noi cantavamo le canzoni dei partigiani, che sono proprio allegre, fatte apposta per i bambini, no? Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa. Io mi immaginavo sti zombie che uscivano con le bandiere belliche. Era uno sballo. E però lì io avevo 6 anni, 7 anni, 8 anni, per me era tutto bello, mischiavo tutto, i miei eroi erano Capitan Harlock, Goldrake, Berlinguer, cioè mischiavo tutto, Paietta, e anche le canzoni, se ci pensate, non so se vi ricordate le canzoni degli anni 70 dei cartoni animati, tipo Goldrake, faceva: vai, distruggi il male, va, quel tipo di retorica, no, delle canzoni dei partigiani, per cui per me mi sembrava che fosse che raccontasse la manifestazione, no, alla barda spaziale, mille armi, tu. Oppure c'era quella di Gigro Bo: corri ragazzo laggiù, dun dun dun, vola fra lampidi blu, a parte che in mezzo a tutti quei morti, capivo, vola fra lapidi blu, no? Ma si mischiava tutto. Allora quando mia mamma diceva: bambini, cantiamo, io cantavo la canzone che era un mischione di tutte, era una cosa tipo: una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, una mattina mi sono svegliato e ho incontrato Capitan Harlock, dun dun, Capitan Harlock, va, distruggi il male, va, mille armi tu hai, non arrenderti mai, perché il bene tu sei con noi, bandiera rossa la trionferà, va, oh partigiano, ti sorridono i monti. Oh partigiano, le caprette ti fanno ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Io lo leidi, io lo leidi, io lo leidi. Allora, invece finirò con una canzone per dimostrare che, soprattutto perché ho comprato la chitarra. Dove si... Abbiamo fatto anche le prove prima. Allora, questa canzone è una canzone mia. Perché ho delle volte l'impressione che la gente sia convinta che non sia un coglione io. Invece questa canzone un po' cerca di sdrammatizzare questo, questo coso qui, no? È un, diciamo, io faccio, sono uno che fa delle cazzate incredibili, ci sono i miei amici là che mi conoscono. Sono proprio praticissimo. E attaccare un jack? Ma c'era un tecnico prima, là? Ah, non trovi il tecnico? Senti, già cablato vuol dire che è mezzo fonico lui, da parte di padre. Come ti chiami? Ragazzi, almeno una birra da Andrea gliela possiamo offrire. Ha svoltato la... Non ho capito un cazzo, comunque vabbè. No, dicevo comunque, è una canzone che parla di tutte le minchiate che ho fatto, ho deciso di fare una specie di hit parade di tutte queste minchiate che ho fatto, tanto per togliere ogni dubbio. Non me la ricordo più però. Hai presente quella sensazione che poi diventa certezza di essere sempre solamente un babbo di minchia? Tipo che ti dimentichi le cose, fai delle cazzate così grosse che a volte vorresti uscire da te stesso e da lontano mandarti a fanculo. Tipo quella volta Martina Franca al festival del cabaret, dopo 4 giorni bellissimi ritorno al parcheggio di Linate, vado dalla macchina, le chiavi della macchina l'ho lasciate in albergo. Tipo quella volta al conservatorio per l'esame di tromba, la tromba l'ho lasciata sul treno. Tipo quella volta in provincia di Modena, per uno spettacolo vado, parcheggio la macchina dietro il palco, apro il bagagliaio dove doveva esserci la chitarra, che è lo strumento del mio spettacolo, il vuoto. E tipo quell'altra volta in provincia di Modena, sempre per uno spettacolo, parcheggio la macchina dietro il palco, apro il bagagliaio dove doveva esserci la chitarra, c'era la chitarra, ma lo spettacolo non era in provincia di Modena, era a Padova. Tipo quella volta tornando dall'India ho avuto la brillante idea di prendere il portafoglio e metterlo nella tasca laterale dello zaino, imbarcarlo in stiva. E ritornato alla Malpensa, che è un aeroporto famoso in tutto il mondo per la cura e la sicurezza dei bagagli. Indovinate? Ma ogni tanto faccio anche qualcosa di buono, e infatti avevo preso la carta di credito e l'avevo messa nel taschino della giacca. Quando sono andato a fare la denuncia i carabinieri mi hanno fatto i complimenti. Poi sono andato a fare le fototessere, perché non so se lo sapete, ma se gli portate le fototessere i carabinieri fanno tutte le pratiche per la patente. Nel tragitto ho perso la carta di credito, i carabinieri non potevano crederci, mi hanno bullizzato, ma mia moglie non mi ha lasciato. Tipo quella volta che dovevo consegnare dei copioni, mi si è rotto il computer, ero disperato, cazzo chiamo chiunque, la vicina del primo piano si era appena comprato un Mac nuovo, mi ha prestato il suo vecchio, dove cazzo sono? E la mia testa mi ha suggerito di portarlo con me per uno spettacolo a Trieste, andata e ritorno in treno, io il computer solo andata. Quando gliel'ho detta la mia vicina è morta. Quando non ho iscritto mia figlia all'asilo, nella chat delle mamme leggo che le iscrizioni saranno chiuse alle fine di febbraio. Chiamo la direttrice della scuola, un cazzo da fare, mando un'email al comune, non c'era un cazzo da fare, l'unica che scrive la scuola privata alle orsoline, mezz'ora a casa da casa, 4.500 euro all'anno e poi minchia le orsoline. E il giorno prima dell'iscrizione ricevo una telefonata dal comune, mi dice lei che ha mandato quella lettera, dico sì, sono un padre di merda, mi dice guardi che sua figlia lei l'ha iscritta, mi sono dimenticato di aver fatto l'iscrizione, più che un padre di merda un vero coglione, e mia moglie mi ha lasciato, fine della canzone. Andrea Di Marco! Grazie! Numero uno! A metà pensavate che questa serata... Boom, e invece ha risolto l'abbiamo tutto portata a casa. Abbiamo finito! È finito! Vuoi dire qualcosa? No. Beh, se mi piace, è sintetico. Sì, sì, sì, sì. Uno ha detto meno male, tra l'altro. Ha detto meno male, è mezzanotte. Comunque, anche la sera che non c'è Valerio, di Riffo o di Raffa, facciamo sempre a mezzanotte. Ci vediamo in teoria se. Il giovedì è sto giro di nuovo. No, purtroppo mi sa che ancora martedì, martedì 13 dicembre. Non credo. Il prossimo, quello dopo. Ma noi tanto state tranquilli che un giorno prima facciamo la locandina e quindi avrete tutti i nostri appuntamenti. Ci sono delle buste. Prima. Chi ha pagato, chi non ha pagato, se vuole pagare, mettere delle monete, i comici sono contenti. Ti lascio l'ultima parola e poi salutiamo tutti. Sborra. Mi piace perché te la sei tenuta. Non ho pensato a niente, ti giuro. Sono stati con noi, ringraziamo. Vado in ordine sparso perché probabilmente non allora, me li ricorderò. Daniela Carta. Daniela Carta. Chiara Cherubini. Elena Di Cioccio. Romualdo Grieco. Alessio Sartori. José Antonio Dante. Ciccio Rigoli. Alberto Vitale. Andrea Di Marco. Vabbè, Andrea Fadenti. Francesco Maggioni. Grazie a tutti, ci vediamo il 13. Grazie Alex Alge. Grazie Alex Alge.